fermata a metà dei 90, voce in canto, mantra, nina, nanna, e chi di sirene, spiri scamano le mie compagne, compagne malate, bever di champagne, sveglia con l'hangover, mamma, le lasagne, il mio ex in giro, sì, concerti, cani, lucido, le Jordan, non chiamare le scarpe, tutte queste Barbie matte sembrano rifatte, borsa sotto gli occhi, borsa prima classe, porto il mondo a spasso, le mie amiche pazze, non le vedo più, risisto, stress, no stress, relax, PC, stress code, blacklist, collage, Cartier, cado, con la mia amor, hotline, swash, Kimon, Nicole, tagata Kenzo, tagata Moonwalk, sono andando a 100, in strada motorsport, annientamento, Natalie Portman, caschetto nero, come mio Wallace, tagata Kenzo, tagata Moonwalk, sono andando a 100, rispondo ma mi trilla l'iPhone, guarda quante cose nella borsa Vuitton, se ti sto rubando il cuore come Margot, e tu stasera mi vuoi bella e sbronza meglio di no, bomba nella bocca Listerine, nella stanza sola lingerie, faccio un'altra foto identikit, peccatrice 10 Ave Maria, amen. Tu non credere alle stelle se non sai desiderare, cuore freddo siderale, ale. In auto tre biscotto 120 sulla provinciale, dai non correre così. Resisto, stress, no stress, relax, PC, stress code, blacklist, collage, Cartier, cado, con la mia amor, hotline, swash, Kimon, Nicole, tagata Kenzo, tagata Moonwalk, sono andando a 100, in strada motorsport, annientamento, Natalie Portman, caschetto nero, come mio Wallace. Non basta essere brava, non basta essere me, non basta essere brava, non basta essere me. Sveglia il mal di gola e ho tanta rabbia da sputarti in bocca, fredde le lenzuola sotto a chi tocca. Tutto è bene quello che finisce, anche se non bene basta che finisce. Non ne potevo più, non ne potevi più. Oh, allora io vado, non è stato male ma neanche bene, e finché è durato, è vero ci si voleva bene, da togliere il fiato, ho una foto in cui stai bene, senza di me, che venivi. Basta un quarto d'ora e probabilmente ho già pronta la borsa. In fuga come a scuola, un altro freccia rossa. Tutto serve anche se ci ferisce. Penso chi l'ha detto in fondo non capisce. Boh, provaci tu. Boh, provaci tu. Oh, allora io vado, non è stato male ma neanche bene, e finché è durato, è vero ci si voleva bene, da togliere il fiato, ho una foto in cui stai bene, senza di me. lo ricordi pure te. Che venivi bene, te lo ricordi pure te. Ok. Un altro pezzo della saga, finalmente. Guarda negli occhi tua madre mentre bevi il detergente. Ti sto dando un deterrente. Aspetta luci spente, sai che arrivo per le 5 coi compagni di merende. Corri a casa più in fretta che riesci, poi chiudi le tende. Metti due dita bagnate nei buchi della corrente. Metto mano al cock, sono il cocchiere. Vado su YouPorn se non c'è una del mestiere. Se non sei un subumano e non ci credi nella tele, sappi che ho scritto le prime barre per giocare un po' il dottor Mengele. Le sorrido mentre se ne va, salutami il ragazzo. Se passeggio per strada suonano il clacson, esco nudo sul terrazzo, la folla invisibilio, sono tutti quanti pronti a salutare vostra santità sto cazzo. Divento coglione, prendo e difendo la nazione dal divano con un tweet, l'importante è l'intenzione. Un collega schizzinoso ha fatto qualche affermazione, zio la figa la si lecca pure se indossa il visone. 1, 2, 3. The best Italian rap, boh, after the 1990. Faccio pop, spruzzo, red dot, rendo sto gioco spicy. Dopo il mio nome lei dice sì, asi, asi, così icy. Pure il 15 d'agosto colmi Mr. Dykin. Metti l'Huggies, mangio Eggies, premio Nobel come Huggins. Poi prendo pedate il mondo come Chaplin. Mille teste sopra i ceppi, la spalla per la pacca. Potrei essere tuo padre perché sono un madafacca. I rapper in Italia adesso vendono, anche se li ho sempre chiamati come gli orologi a pendolo. Questo perché ho doti che sono sorprendenti. Ve lo metto in culo e fa cucù dai denti. Chiamami Ernie Imperator, sì che li mato, il loro sangue tommato dentro sta gabbia Bellator. Faccio uscire due pezzi di fila, il pubblico incazzato mi scrivono nei DM, mi ero appena segato. E che cazzo. Ancora. 1, 2. Ti colpisco e non ti chiedo scusa, tu non hai qualche lacuna per ciò che dici, hai qualche laguna in testa. Mettiti la muta, fai la muta, nuota insieme a qualche nutria. Per gli stronzi così non ho pietà alcuna. Scusate raga, vado forte, io non ho intenzione di rallentare, l'ho detto mille volte. O spingo o non riempio la cassaforte, ne filo una per ogni pezzo che faccio. Sto pionte. A come piace sta musica, questa è proprio la musica, quella gagliarda, quella giovane che a un certo punto noi da legge dalla strada venimo là, spaccavamo tutti quanti, famo un macello, perché attenzione, poi c'eravamo la cangiata qua, c'eravamo il pezzo di là e poi la capezza di fuori, stavamo tutti incazzati. Scusa, Pizzi, quelli erano anni 90, eh? Ah no, ho sbagliato qualche cosa, ma sì. Non sono abbastanza giovane per fare sta roba qua che dicevo, perché c'ho il pezzo di qua. No, ma c'è Star Trap. Che non è un allenatore. Anzi, la trap. Perché il trap, massimo rispetto. Ma vabbè, comunque fra un po' stiamo arrivati qua tutti col pezzo di qua, il coso della negra a rimettilo a posto. E poi tutto a posto e ci ascoltiamo Colpa delle favole di un certo ultimo che non so chi sia. Una strada poi non c'è, se non riesco ad essere grande e mi innamoro in un privé, perché mi illudo che la gente sia di più di quel che è. Colpa delle favole. Sorrido senza un senso, se guardando il cielo vedo una faccia e poi ti penso. E non è colpa mia, come dici tu, e se di notte sogno poco, di giorno sognerò di più. È colpa delle cose che ho rimandato sempre, per fare un po' il buffone, che poi il buffone a che mi serve. Io vorrei solo essere stato un po' meno assenteista, per guardarti dentro gli occhi, dirti amore adesso resta. E ho vissuto con il peso di maestra e poi psicologi. Dicevano su cerca di non essere sbadato, che la vita poi non torna e se ti perdi sei fregato. È colpa delle notti dove la calma in me non c'era, e per averti avevo i sogni e almeno lì sembravi vera. E non è colpa mia, come dici tu, e se di notte sogno poco, di giorno sognerò di più. Della musica che mi ha reso troppo astratto, sono un raggio che dal sole non si lancia e resta al caldo, e rispondo alle paure che io non sono in questo corpo. Amore, non è colpa della pioggia o delle nuvole, se parlo poco sappia, è solo colpa delle favole. Na na na na na na na. Ladies and gentlemen, welcome to Beyonce Homecoming 2018. My Invisalign has... I have taken out my Invisalign. I have taken out my Invisalign, and this is the album. Io sono tra gli ultimi superstiti di una grande generazione. Stavo vomitando dopo la tua esibizione, ti ho visto in televisione, ma quale condivisione? Avete rovinato una rap generazione, nessuna venerazione vi uccida. Runtime Radio presenta Ottimisti genericamente mortificati. E con lo schifo che ci pervade l'anima, questa sera torniamo qui per voi su Runtime Radio, la radio hip hop, trap e anche un po' trash. Con me c'è Walter Sbano. Sicuramente l'aggettivo adatto è trop. È trop perché? Perché c'è solo Walter Sbano? Perché quell'altro lascerei fuori dalla porta. Perché scrive in questo momento sto fuori dalla porta. E fuori deve rimanere, capito? Infatti, è una cosa veramente indegna, indegna, assolutamente indegna. Però vabbè, noi oramai ci siamo un po' abituati, poi lui tira la corda sempre di più, ogni volta quel minuto di più. Sì, secondo me ci ha lavorato de cesello, capito? Un minuto oggi, un minuto domani, ce l'ha fatta ad arrivare tardi, un applauso. Era come quando gli suonava il cellulare sempre, ti ricordi i primi tempi che stava sempre... Io spero che fossero donne. Ma quello... potrebbero anche essere donne, ma in realtà noi non lo sapremo mai e... Ma magari facevano pipì in piedi, beh certo. Beh, donne che fanno pipì in piedi, no, perché... io so donne pure quelli per alcuni, eh. Sì, ma per carità, c'è chi dice che è una donna pure Pamela Prati, quindi figurati. No, dicevo... Tanto sentiamo dalla regia dietro... No, tra l'altro Gualdi oggi non lo sapeva che passando sarebbe dovuto passare per l'ufficio protocollo, che è una novità del de Runtime Radio che abbiamo istituito proprio oggi. Praticamente Dolores abbiamo avuto una promozione, è passata all'ufficio timbri. Quindi stava protocollando e secondo me Gualdi ci è finito in mezzo, è stato tamponato. Ma nel senso di una bella timbrata. Buonasera. Sul frontino. No, in realtà sono arrivato con un po' di ritardo perché ho dovuto fare una cosa... Tanti caffè, portaceli almeno tre. Sentite, dalla redazione ci chiedono i caffè. È stata appena di nuovo di retrocessa, perché... Tre, facciamo tre caffè. Protocollo e tornata a fare... Ah, sguattera. Che stava a fare? Niente, poi spieghiamo. Comunque, vabbè, non ci frega un cazzo. No, stavo cercando di trovare, di ricordare che cosa ho dovuto fare sabato pomeriggio. No, tante parolacce per Marco Guardi. Cioè, senti che sta Io comunque non vorrei di niente, ma dentro questa stanza sente puzza di bruciato. Quindi c'è qualcosa che sta bruciando. Io voi fate hobbies. Io non sento niente che puzza di bruciato. Io sbano, senti qualcosa che bruciato. Dovreste uscire e poi rientrare. No, mi sono pure lavato oggi. Ok, allora comunque volevo dire, intanto salutiamo tutti quelli che sono in chat, tipo Lobby Frontali che sei andato e Michele Schuren che tra l'altro ci chiede perché interrompete le canzoni così belle. Lo interrompiamo perché noi dobbiamo entrare a gamba tesa. Dicendo cose più belle. Scusi, ma va a fare i caffè per favore. Che cazzo. Comunque, grandi annunci questa sera. C'è anche Ziomski, o non so come si pronuncia, che ci ha salutato all'inizio nella prediretta. Era tanto che non lo vedevamo. Ziomski. Però dobbiamo fare un tributo, un saluto speciale al buon Davide Gatti, che era lì per seguirci. È corso a casa con le pizze perché sapeva che iniziava la diretta. E purtroppo si è scatafrombolato, si è fatto anche un pochino male. Spero niente poi di eccessivamente serio. Però stasera sicuramente salterà l'ascolto. Spero che, insomma, perché sia l'unico... Perché ascolta col ginocchio, ascolta. Perché a volte fa contatto col gomito e succede un casino. No, no, perché ha sbattuto la testa e ha perso l'udito. Comunque l'immagine... Però soltanto per mezz'ora e 40 minuti. Guardi, cosa c'è? Leggermente più lontano dal microfono. Faccia una cosa, Gualdi. Io normalmente sto a questa distanza. Indossi le cuffie. Indosso. Sì, perché se non ti senti non capisci. Così ci renderà conto che sta strillando. Che lui c'ha quest'altra moda, che dopo 7 anni che fa podcast radio ancora... Però adesso non mi sento, mi viene di abbassate il microfono. Stai strillando come Alessandro Mussolini incazzata. Dai. Oppure che ne so, l'Olanda. Vedi, io ragazzi, normale, ma a proposito di Olanda, devo cercare... Sta solo leggermente più lontano. Devo cercare un contributo, ragazzi. No, ok, comunque... No, basta contributo. Allora, annunci importanti. Vabbè, intanto le immagini che arrivano delle ferite di Gatti sono veramente brutte. Sono raccapriccianti? Tutte cose, non so se mi spaventa di più il rosso della ferita o il giallo che sta intorno, devo dire la verità. Perché, insomma... Quello si chiama Simpson, sì. si chiama Davide. Perché se il giallo è il colorito normale, non so, forse ti ha fatto bene. Vabbè, è un pelino di Ittero, ma saranno pure affari suoi, insomma. No, ma è la fotocamera sicuramente. No, lei è apparso, eccolo, che dice, vabbè, le pizze comunque le ha salvate, quella è la cosa più importante. Comunque, annuncio importante, domani sera, finalmente... allora io prima di iniziare ho guardato Sbano e ho detto: Sbano, ti sei riuscito a difendere dagli spoiler del Trono di Spade? Che praticamente era impossibile, no? Cioè noi siamo riusciti a sopravvivere 12 ore. Cioè, io ancora oggi non so come è finito il Trono di Spade. Vabbè, ma lascia perdere questo. Comunque... Ma perché è finito? Esatto. No. Quindi, no, sono spoiler. Domani sera ci sarà lo speciale Runtime Trono di Spade che si intitolerà Trono in carrozza. Eccola. Ma come la mozzarella? Esatto. E trovo in carrozza perché è così. Perché voi lo sapete, chissà sa, chi non sa non sa, è così. Chissà sa, chi non sa insegna, diceva qualcuno. Esatto, chissà sa pure un pochetto. Senti, ma invece, allora... Poi mercoledì... No, via Dolores. C'è anche via. Sì, c'è Dolores e c'è anche la cugina di Dolores. Sera, quindi... Che è de panza, come se... No, ha detto che non viene. Non viene, ma... Sì. Perché qua si fanno rumori? Viene qui a tagliare cose. Mercoledì scorso, Sbano, la puntata l'avete fatta? No. Ma no, che non saremmo dovuti fatto, venire qui a farla, sai? No. Io ho dato il microfono a Sbano per pensare. No, ci sono state tutta una serie di congiunture astrali, anche, praticamente. Sì, io non ci sono stato, perché c'è non è che non ci sei stato. Insomma, diciamo... Sai, riconsolamo con l'aglietto qua. Ecco, quindi, grande trionfo. Che finalmente ogni tanto qualcuno porta qualcosa a casa a Roma, perché se no sarebbe triste. Niente, quindi non ci sono stato. Pizzi, no. Però senti, io ti devo intanto chiedere una cosa, sai, classica cosa. Lo dico, qualcosa sulla No, è proprio, sai, quelle informazioni di servizio. Io sto parlando al Pizzi regista, non al Pizzi. Okay, mi sì. Prepari l'asset, quello coccodrillo, perché non so se l'abbiamo fatto. Brutto. Ok, allora parla tu e io lo... No, parlo perché io sto cercando un asset, è un po' complicato perché lo devo andare a recuperare, pensate un po', da Twitter. Brutto. E sto scorrendo tutta la TL di ieri, perché ragazzi, ieri Berlusconi ne ha veramente... Sapete che Berlusconi, allora non so se ve ne siete resi conto, tartaglio un po' come lui, praticamente in questi giorni lui si è siccome risvegliato da un torpore durato 10 anni e ha praticamente ripreso i discorsi che faceva 10 anni fa, tipo 1.000 euro di pensione minima. I comunisti sempre, quello è il cavallo di battaglia. Lui è convinto che la disfatta che questo governo davanti agli occhi di tutti, insomma, si sta compiendo. Che guarda un po'. Si sta compiendo per colpa del fatto che la Lega, loro storico alleato, adesso sta governando insieme ai comunisti. I comunisti, secondo lui, sarebbero il Movimento 5 Stelle. Aia. No, aspettate un attimo, scusate. Qui Davide Gatti dice 10 codici verdi prima di me. Vuol dire ma quindi al pronto soccorso davvero? Oh, cacchio, ora si è fatto male davvero. Allora, questo ci dispiace, noi ci stavamo a scherzare sopra. No, siccome lui ha detto... Anzi, ci ha aggiornato in tempo reale. Sui canali tecnici lui ha detto le pizze le ho salvate. Ho pensato, ok, si è sbucciato il ginocchio, però insomma sta a casa a mangiare. Invece no, purtroppo... No, vabbè, facci sapere se è vero, insomma, informaci correttamente, perché insomma, non diamo false notizie, poi la gente si preoccupa. Nel frattempo Lobby Frontali ha buttato un link YouTube, così forse io tanto che cerco quello che devo cercare a livello di assets. Guardi, tu che ci raccontai, dici qualche bella novità ogni tanto, insomma, nelle triste viti aretine probabilmente qualcosa di bello succede. No, sono venuti un sacco di politici a Montreal, un sacco di politici, anche inutilmente, secondo me, perché la gente li va a vedere per tirare le noccioline. Pensate che da queste parti è venuta la Raggi e c'era qualcuno col cartellone: sei venuto a rubarci le buche, di scrivere. C'è venuto a copiarci le buche, soprattutto perché ce le copia. Oppure non ce le ruba, ce le copia. Ce le ruba e ce le copia. Ma lo sai che in realtà. È un brevetto suo, quello. No, ma c'è da dire una cosa: che col fatto che, sapete, no, domenica si vota per le europee, ma qui da noi si vota anche il sindaco. E proprio per questo motivo un sacco di buche le hanno tappate. C'era la piazza del mercato di Monterondo Scalo, per chi la conosce, che pareva Kabul, era proprio una cosa improponibile. L'hanno rifatta tutta. Questo è quello che pensi te, perché fra 2 mesi non ho detto che dura, ho detto che l'hanno rifatta, insomma. Vabbè, certo. Il famoso asfalto elettorale funziona ancora nel 2019? Questa è una bella domanda. Sì, evidentemente sì. Perché solo per loro, però nel senso poi la gente effettivamente li va a votare perché gli hanno rifatto la strada dopo 4 anni di bestemmie. Questo io secondo me non funziona più come una volta. Bisogna vedere, insomma, bisognerebbe andare a fare un sondaggio, ma non si può fare. Allora, noi partiamo dal locale per estendere le cose un po' a livello certo. Globale. Allora, partiamo da Monterotondo. Quello che noi abbiamo visto è che ha aperto una sorta di sezione temporanea del Movimento 5 Stelle con la faccia del candidato sindaco, certo. E con tutti i manifesti che però loro dicono votate domenica, tutti i manifesti, siamo precisi. Allora no, loro hanno organizzato, sai quelle carriole che vanno in giro con i camioncini che fanno i cartelloni pubblicitari che ti vanno a dire vele itineranti, guarda come sono tecnico, vele itineranti, mamma mia, preferisco mamma mia. Cariola che va in giro, comunque, sì, esatto. Con questo pezzo grosso di carta appiccicata, esatto, in carrozza, e dove c'era scritto di andare a votare per il Movimento 5 Stelle il 29 di maggio, la cosa che farò io, però andrò a votare il 29 di maggio. Esatto, però loro perché? Perché loro sono diversi. Contro la casta, ragazzi. Esatto, certo. La casta vota domenica 26, esatto. Loro votano mercoledì 29, esatto. Tant'è che io passando dalla sede gli ho lasciato il post-it, se vediamo il 29. Dai, gli ha lasciato sì. Però tanto non c'era nessuno, è facile fare smargiare. Vabbè, insomma, no. Vabbè, questa è la prima cosa. Esatto. La mia cosa. Poi molti salviniani in zona. Tra l'altro mi ha scritto oggi Salvini? No, mi ha scritto oggi un mio amico che tornavano dalle Olimpiadi della matematica in Parigi. Che schifo. Nella sua squadra, ovviamente, delle Olimpiadi della matematica c'era un ragazzetto di Monterotondo che si era candidato per le liste di Salvini. Che schifo. Quindi ho detto, vabbè, ma... Cioè, no, aspetta, scusa, c'è qualcosa che non mi torna. Uno erudito, cioè uno studiato che si candida... Un matematico non è proprio... Cioè, nel senso, un matematico... potrebbe anche essere un autistico. Tu lo, tu lo però, esatto, bravo, esatto. No, però non in questo vabbè, caso. Essere autistici non esclude l'istruzione, anzi, si, no, l'autistico tendenzialmente è una persona estremamente intelligente. È una persona estremamente intelligente. Ma non ti incula, è questa la cosa. Quello è... Quindi non dovrebbe neanche farlo con. Quindi non è che c'ha una cognizione umanistica delle cose, capito? No. C'ha una cognizione matematica, cioè... scientifica. È quasi questo un po' l'evoluzione del Marchese del Grillo. Io so io e voi non siete incazzato. Però io volevo approfittare di questo silenzio basistico per farvi ascoltare una cosa. Questa non è preparata, quindi non so se la capirete. La fiducia è ai minimi storici. La fiducia è ai minimi storici. Ragazzi, di questo dobbiamo fare l'asset. Scusate perché è loop. Dovremmo fare l'asset esattamente come Maledetti. Questo è Berlusconi che ha fatto un video questi giorni per fare l'autopropaganda che ha messo sui social mentre diceva fiducia c'ha avuto un conato di vomito, si stava giocando, si stava ingoiando la dentiera. No, perché quello, perché lui, allora, per chi conosce i videogiochi, secondo me Berlusconi è Manuel Samuel. Esatto. No, ok, Manuel Samuel. Perfetto. Ve lo faccio risentire, ragazzi. Ai minimi storici. Ma sapete qual è la cosa? Stava, no, secondo me lui lo stava pensando in inglese. Sì, certo. But please visit Italy, diceva Rutelli. No, secondo me cosa succede è che Berlusconi, per quanto ormai, come posso dire, si è ridotto a simulacro di se stesso, senti che bella frase, ancora una pletora di yes men che non gli dicono, guardi, forse è meglio che la rifamo. Non c'hanno proprio il coraggio. Io gli avrei detto, guarda, presidente, c'era la pellicola, questa la rifamo. Perché proprio, cioè, veramente fare un video del genere e caricarlo è proprio l'espressione del servilismo più gretto. Gli stai facendo un danno. Paga, è vecchio che paga, quindi ho capito, ma proprio, cioè, proprio perché è vecchio non lo devi coglionare. Rispetto agli anziani. Non fa più paura a nessuno. Dammi risorda e vaffanculo prima che ci resti. Magari mentre mi stai a fare... muori e ma come paghi? Cioè, scusa, vai. No, ma davvero... Che è un po' la versione, come te posso dire, lasciamo interattiva stare. Di Presidente. La fiducia ai minimi storici. Vabbè, ti prego, metti la scarica, scarica. Ai minimi storici. Anche io tramite torrent. È ai minimi storici. Vabbè. Che poi se ci pensate, scusate, cerco di fermarlo. Secondo me quest'asset, se ci pensate, è anche adattissimo a OGM, quindi lo dobbiamo fare nostro. Sì. Perché è proprio il segno dei tempi. Margion, prendi il segno del tempo, vai, facci qualcosa con la fiducia. Margion, facci una sigla con questa cosa. Margion, bello, benissimo. Vabbè. No, niente, abbiamo scoperto che ci sono tanti partiti politici che infatti così, che mancava un po', dai, su. Tanti partiti politici che fino a un mese fa neanche esistevano, però tanti candidati, il partito della Sukunnu, tanti candidati, gente che non gli era mai fregato un cazzo che improvvisamente si è ritrovato candidato di Forza Italia o di PD o di quant'altro. Ah, sì, anche con mia moglie ci hanno provato, devo dire. Simo Peppe Rizzard, Dumboy, per favore manda l'asset del Berlusconi in slow motion, l'abbiamo preso al volo da un social, la prossima puntata, dai, la prossima puntata te lo facciamo. Cosa? Voleva sentire la fiducia. Lo voleva sentire in slow motion. Ah, potrei farlo se mi date il link. Tipo in tempo reale, potrei farlo. Allora, pare facile. Aspetta, cerchiamo chi ha caricato questo video. Qui. Beh, fosse facile, lo sta a fare pure la dico. Sto secondo me. No, vabbè, ma più che altro perché. Ma io vorrei suggerisco di fare la trasmissione tutta così, cioè è ai minimi storici. La fiducia è fiducia. Io non ho detto, lui in quel momento stava pensando in inglese. Che postaglio, la fiducia. Sì, ma non mandamelo sulla nostra chat già riservata fatto, tecnica. Bravo. Adesso no, ma adesso il discorso, ragazzi, veramente è un avatar, ma nel senso che proprio, come posso dire, un feticcio. Non è possibile. Aspetta, poverino, che lui ci crede ancora. Non gli rompete. Ma cioè, il problema è che ci crede solo lui. Vabbè, ma l'importante è che ci crede lui. Cioè. Però a questo punto. Ma bello che quello che ha condiviso questo video ha scritto è il figo. Cioè. Allora, intanto, ragazzi, io vi do una dritta. No, è il figo. È il figo. Io vi do una dritta. Domenica, domenica, dall'ero. Il 29. Venerdì, no. Certo, il 29. No, venerdì, sì. Guardate Propaganda Live perché sicuramente Celenza farà qualcosa con questo. No. No, perché si fa propaganda. Ah, cavolo. Fa la maratona fino a lunedì. fino a lunedì, ma è un pazzo. Mia, tutto da solo lo fa. Sì, sì, ha voglia. Poi lui può fare la finish. E poi propaganda del cambio mentana. Ma chi io? Vabbè, allora lunedì alle 8 c'è Lenza, mi auguro che così me lo fa ancora meglio, c'ha più tempo. Sì. No, volevo mettere quest'asset che ci ha mandato, nel frattempo se abbassi il background sì, volevo mettere... fare 50 cose insieme, Cribbio. Pizzitasking. Vai, vai. Vediamo quest'asset che ci ha mandato il buon Lobby Frontale. Il sistema metrico è uno strumento del diavolo. La mia macchina fa 40 perdite. Immaginate che lo stia dicendo Berlusconi. È così che mi piace, è così. Il commento del Bacucco sarà tolto dagli atti. Chi ha parlato? Vabbè, non lo sapevo, non l'avevo visto prima, quindi è un montaggio con la voce di, con la voce che sentite in, in sottofondo, però con le immagini di Berlusconi da Floris. A proposito, un applauso a Floris. Silvio Berlusconi, milanese. Ma scusa, ma qua se non i loop automatici. Dicevo, il Berlusconi, vabbè, lo mettiamo un attimo da parte. Non so se avete visto invece da Floris, l'ultima volta che c'è stato Di Maio. 42 minuti d'applausi quando Di Maio ha detto perché ci siamo voluti noi per togliere 40 milioni di euro di vitalizi dopo 30 anni ai politici e Di Maio e giustamente Floris ha risposto sì, ci siete voluti voi pure per fare 23 miliardi di deficit, esatto, però esatto. È stato il momento del cappotto epico, cioè io non lo so, Di Maio, Floris non si candida a niente, ma io lo voto, io penso che domenica voto Floris, poi vado no, poi fa la fine di quell'altro che è finito con Forza Italia, la quale come cacchio si chiama. No, i politici che si candidano fanno tutti una brutta fine. No, no, ma io dico, io lo candido a prescindere. I giornalisti, dico. Sì, sì, no, si chiama quell'altro che più tempo passa e più diventa grosso. Emilio Carelli? Carelli, no, vabbè. Sì, vabbè, ma Emilio Carelli, insomma, un altro personaggio un po' sui generis. Ma invece vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori, con tanto di contributo audio, il perché del titolo della puntata di oggi? Potremmo, sì, ma non lo faremo. Però parlate perché un attimo, siamo superiori. Okay. Fatemi fare una cosa per forza. Scusate, no, perché allora, intanto un appello di cuore a Dolores: porta il caffè al Pizzi perché sennò non ci sblocchiamo. Sta cominciando a perdere colpo. Esatto, esatto. Non è più abituato a questi ritmi forsennati della diretta. Sì, sì, infatti abbiamo fatto questa pausettina tecnica che praticamente ce l'ha un po' impigrito, capito? Ce l'ha un po'. Però potrei darvi l'unica notizia assurda della settimana, che è già di un mese fa, perché ormai è passato un mese. In realtà di notizie assurde basta vedere i programmi con i politici in televisione, di assurdità ne trovi quante ne vuoi. Beh, la cosa che è successa immagino sia successa in Cina, tipo, perché tanto succede, tanto ormai qualunque cosa, sì. Praticamente madre single ha pagato un attore per 10 anni e continua a farlo per fingersi il padre della figlia. Attenzione. Aspetta, all'insaputo della figlia? È ovvio, è normale. Allora, nel tentativo di evitare che la sua giovane figlia venisse emarginata dagli altri bambini perché non aveva un padre, una madre single giapponese, pardon, ha preso la decisione di assumere, e se fossi J.J. Abrams direi tanta uguale, però non sono J.J. Abrams e quindi non lo dico, ha preso la decisione di assumere un attore, la cosa però gli è sfuggita di mano perché sono infatti 10 anni che porta avanti questa finzione. Sai perché è grande la differenza tra un cinese e un giapponese in questo? Perché secondo me i cinesi, che sono molto più pratici e molto più pragmatici, quindi di conseguenza le cinesi... No, la cinese se voleva... Molto! No, perché se avesse voluto, appunto, come dire, salvaguardare la figlia evitando questa diversità, la cinese medio usciva per strada, faceva un pompino al primo uomo single che trovava e si faceva sposare, 1, 2, 3, come avrebbe fatto un italiano. È molto, molto razzista questa cosa. Sì, comunque... No, come avrebbe fatto un italiano, invece i giapponesi comunque, no, giapponesi no. Articolo vengono appunto chiamati con nomi fittizi e quindi chiamiamo la bambina Megumi. Io l'avrei chiamata Legumi? Megumi con la M di Malermo. Legumi come lenticchie? Esatto, come le menticchie. Praticamente questa io l'avrei chiamata basta con sta cazzata. L'avrei chiamata Carlotta, Rosetta, detto stavano dicendo che cazzo ci sono inventati, che cazzo ci frega. Comunque è una bambina piccola, i suoi genitori si sono separati. Che ha detto alla madre: ma a me non mi sfottono perché non c'ho il padre, mi sfottono perché mi chiamo Legumi. Mi chiamano Legumi. Certo. E la madre Asako, che poteva essere tranquillamente Maria. Legumi Asako. Significa Maria. Maria significa Maria in giapponese. Quindi ha cominciato a chiedere: ma papà? Papà. Una brutta storia. Una brutta storia. Quindi, ovviamente, ha cominciato a prendere, a noleggiare questo padre finto che. Alla fine è invecchiato con questa ragazzina che ogni tanto gli si faceva vedere, dice: guarda, sì, io sono separato, però ogni tanto ci vediamo perché ti voglio tanto bene, bla bla bla bla bla. E continuano perché questi praticamente, poraccio, non c'hanno il coraggio di dire, mo che questo è tutto finto, insomma. Chissà come andrà a finire. La fiducia è ai minimi storici. E infatti, la fiducia è proprio ai minimi storici. Però no, non va bene questo. Ma invece allora... voi che ci state ascoltando, no? Avete avuto qualcuno che ha finto di essere un vostro parente per anni, per dire, no, vabbè, una finzione lunga che poi vi hanno detto no, quella cosa è falsa? Vi è mai capitata? No, questo c'è una cosa che capita nelle vite di tutti, penso, che c'è l'amico di famiglia che alla fine, quando sei ragazzino, chiami zio. Esatto. Questo è un po' tutti, dai. Allora, io... Che è poi quello che ti tocca, normalmente, quando che poi bambino. Dopo ti dicono, ma no, guarda che non è tu zio per davvero. Allora, ma allora quando facciamo quelle cose... Ti... No, una ce l'ho da raccontare, però sì. Non posso scendere troppo nei dettagli, perché un fondo... Ma anche perché un poi, fondo scusa, di io comunque, quando succedono queste cose... La fagliuccio è minimi storici. Minimi storici. Allora, vi racconto davvero questa storia, diciamo, della mia tarda infanzia. Praticamente uno zio. Dobbiamo mettervi in triste. Uno zio il quale ha sempre vissuto per tantissimi anni in vari paesi, diciamo, del Medio Oriente. Grazie. Anzi, del lontano Oriente quasi. Quindi mette la più diciamo, lontana la canzone. Con tutta questa aura di mistero sul lavoro che faceva, che fa, che cosa non fa, non si può dire perché zio di qua, zio di là. Ora, da una parte è vero che. Zio Megumi, giusto? Zio che lavorava. Anche porco zio. No, zio che lavorava per la Marina Militare, effettivamente. Diciamo. Ok, diciamo che il fondo di vita c'era, però intanto zio zitto zitto, si è fatto una seconda famiglia da quelle parti. Bravo. Sai che pure una mia parente c'aveva il marito che stava in Marina Militare. E quindi lui mentre da una faceva parte faceva i turni, faceva un sacco di turni, faceva proprio tanti turni. Capito? Ma sta sempre a fare i turni. Quanto si sacrifica per la turni, famiglia. Esatto. Come ce ne due sta famiglia impegnativissima. Lo fanno. Poi com'è scappata fuori sta cosa? Perché è scappata fuori. So che sì, in realtà a un certo punto è venuto fuori. Non ho capito se dopo tanti anni a un certo punto, come nella scena del pane di Fantozzi, a mia zia è venuto un leggerissimo sospetto. O cosa non... Ma perché a me mi chiami Megumi? Esatto. Non lo so. Perché mi chiami Legumi? E niente, ma su cosa ma che sto caffè, io ancora non ho capito. Però bella storia, commovente. Vero? Commovente. Esatto. Anzi, commovente, quindi c'è l'assassino. Io penso che... Ma ditecelo anche voi da casa, se avete qualcuno che ha finto per anni di essere... Che ha finto per anni di essere una persona che non era. È ai minimi storici. Allora, niente, raga, per me questo oramai diventerà un il tormentone. Sì, comunque ci dice Pepper Izzard che poi non è così infrequente essere madre single o padre single in Giappone, ma in realtà neanche in Italia, soprattutto madre single. Purtroppo succede più spesso di quanto perché quando dovrebbe, c'è un problema, poi i padri si sbudellano e quindi fanno seppuku. Esatto, seppuku. No, invece mi raccontavano. Dice, amore, sono incinta. Era stato un errore perché non vai. Mi raccontavano che invece in Giappone, quando la moglie partorisce, nei mesi, insomma, in cui si concentra totalmente sul figlio, il marito, diciamo che è tollerato il fatto che il marito va a puttane. Guarda, io non è che sono un profondo conoscitore di quella che è la cultura giapponese, ma sì, è certo, fai pure il risucchio. Però effettivamente so che, insomma, diciamo che l'atteggiamento delle mogli giapponesi è tendenzialmente piuttosto remissivo, perché preferiscono salvaguardare, come dire, la forma piuttosto che la sostanza. Quindi l'importante è non far parlare di sé. Se poi il marito, se poi il marito sotto sotto, dopo il lavoro, prima di tornare a casa, fa un... Tra l'altro in Giappone i bordelli sono legali, per cui diciamo che se a un certo punto il padre di famiglia di turno, uscendo dal lavoro, invece di andare a giocare a pacinco, va a giocare bordello, a pafica, esatto, fondamentalmente. Poi, cioè, insomma, tutto sommato l'importante è che non costi troppo. Lontano dagli occhi, lontano dalla brutta figura. Lontano dalla famiglia, probabilmente. Beh, però vabbè. Cose che succedono, vabbè, quindi niente, ci scrivono cose tipo quello pensavo fossi mio zio, mi toccava, cioè sempre lo zio che ti tocca da qualche parte, no, giustamente. Lobby ci dice Berlusconi is the new background music, ma probabilmente potremmo sostituire questa base rock con la fiducia, ragazzi, sapete qual è il problema? Allora, io ho fatto 10 mesi di servizio civile ai bei tempi in una casa di riposo, quindi vi posso dire con una certa cognizione di causa che mentre diceva servizio civile sì, che mentre diceva la fiducia, lui per un poco non si è ingoiato la dentiera, ragazzi, quindi attenzione, poteva essere la volta buona, se si stava pure ingoiata la saliva nell'esofago, perché sì, no, quello è stato proprio un conato di vomito dato dal fatto che gli si è mossa la dentiera. Vabbè, comunque non c'è bisogno di essere terapeutisti per sostenere il fatto che lui sia un animatrone. No, però posso fare, sì, esatto, un Muppet, un mammatrone. Posso fare una domanda? Questa è molto tecnica. E penso a lui, penso a Costanzo, penso ad altri, perché più sono ricchi e meno spendono di cure dentali? Perché una dentiera così storta, neanche mia nonna che non c'aveva una lira. Ma io forse che lì non è esatto. La dentiera è dritta, la faccia che sono, cioè ormai è tutto quello che sta così, intorno. Che sta marcescendo. Esatto, vabbè dai ragazzi, ma detto da... Cioè tu puoi, puoi inventare quello che ti pare. Tizi, ma... abbiamo una testimonianza da musica drammatica che ci ha lasciato il nostro PRG in chat, te la farei leggere perché allora, ha il tono adatto. Allora, io? No, sì. No, io non so leggere, tu lo sai che io non so leggere, quindi vai. A me da piccolo raccontarono che mia zia andava a fare le pulizie dal suo ex capo tutti i giorni, mentre in realtà era assieme a lui a causa del suo divorzio, ma erano gli anni 80 e non si poteva dire. Beh... è un modo dice, gentile quando... Aspetta, dice, più complicato di così. Ci vorrebbe un riassunto alla Gualdi. Sì, riassunto... Ma se poi... vuoi se lo inventa, eh. No, vai, Gualdi. È un po' brutto. Non perché di Gualdi, vado a fare pulizie, la durata, a fare pulizie al mio ex capo. Sta scoprendo. Mica è colpa sua se c'ha le piattole. Guarda che PRG questa cosa ancora oggi ancora... non l'aveva capita. Perché devi far così? Porco cioè... scusa, non lo sapevo. Ma io pensavo che tu lo capisti, invece no. No vabbè, ma c'è... Grazie Delores, grazie. Grazie. C'è scritto espresso sulla tazzina, quindi so che è un espresso. Sul mio c'è scritto Intercity, come? Sono cazzi tua. Beh, fa prima. Rusellate. Ecco così. Gusellate. Okay, vai, questo è arrivato fuori tempo massimo, però. Esatto, quello di che ce l'avevo e non l'abbiamo mai usato. Però allora ho detto, usiamolo. Ci organizzeremo per creare le gusellate, per tornare alle gusellate, perché sì, ricordiamoci se, che se vuole insomma, intrattenerci via Skype è ai minimi storici. Non sono stato io però. Lo so, infatti era velocità normale. Ok. No, dicevo, ragazzi, vogliamo introdurre l'argomento pilota della puntata? Vai. Un minutino di asset. Vai. Come mi fai passare? Fai una scannerizzazione. Leggi il mio passaporto, controlli il nome. Mi fai pagare 20 euro in più perché mi si è rotta la busta. Mi fai pagare 20 euro in più? Ma certo, aspetta, io non reclamo perché non ho la pazienza adesso. Faccio reclamare una mia amica. Che lei c'ha pazienza. Tu sei un avvocato. No, non è finito però. Dov'è che è andato a finire questo poi? Ora te lo racconto, però c'è, intanto c'è una spiegazione tecnica a quello che è successo, che io adesso vi porgo. La fiducia è ai miei storici. Questa non è una spiegazione tecnica, questa è una conseguenza. No, allora, esatto, raccontiamo cosa è successo in breve. Passeggero sardo, si è capito, che sale sul suo bellissimo volo, manco a dirlo, Ryanair. I video in automatico, sale, chiedo scusa. Sale, dicevo, così sale. Sale sul suo simpaticissimo volo Ryanair, ovviamente, perché chi potesse stato, per Cagliari. Quando l'aereo atterra e il capitano dice benvenuti a Bari, si è reso conto che qualcosa non andava. Però aspetta, posso fare subito un'eccezione? Certo, stai qua apposta. Perché no, quello dice, ok, ah no, finisci di raccontare però. No, il racconto finisce qui, nel senso che l'audio che avete sentito è stato ripreso da un passeggero incazzato, esatto. Perché lui dice, invece deve essere da una parte e dall'altra e si incazza perché dice voi mi avete fatto passare, avete visto dove dovevo andare, mi avete fatto passare ugualmente. Ok. Non solo, ma gli hanno fatto pure pagare di più, un supplemento. Ok, però... Mo, è vero che tu noi sappiamo col sistema, però è pure colpa sua, eh. Allora tendenzialmente sì, è vero, perché lui doveva controllare, però cioè questo potevano far salire uno dell'ISIS che allora, da un'altra parte, io la vedo così. Che sistema di sicurezza allora, c'hai? Io la butto in questi termini, in qualità di passeggero il diritto di sbagliare. Nel senso, non è compito mio verificare che quel gate sia giusto, perché ci sono dei controlli che presuppongono il fatto che se io presento il mio biglietto, il mio documento, tu hai una checklist, devi vedere che il mio nome sia nella lista di imbarco. Sì, no, questo sono d'accordo. E quindi già c'è un, cioè, quindi voglio dire, questi hanno fatto passare carne de porco, se invece di uno che doveva andare a Bari c'era, come dice Gualdi, un terrorista dell'ISIS, e avrebbe bestemmiato. Io vi rendete conto che vi rendete conto che casino, se invece fa saltare l'aria Cagliari facciano saltare l'aria a Bari, è un casino. Poi no, allora, cioè, capisco, perché poi, vabbè, secondo me poi ci saranno anche dei, io, quello, il passeggero dei sistemi di rimborso, il diritto di essere ubriaco, di essere rimbambito, potrebbe essere analfabeta, quello che ti pare. Beh, cioè, no, dai, però c'è sempre, cioè, io sono d'accordo col passeggero, però diciamo che, cazzo, cioè, entrare nel gate sbagliato ce ne vuole, però, cioè, ma nessuno lo nega, cioè, lui ci ha messo del suo. Non è impossibile, non è impossibile. Abbiamo dimostrato però che lì, è possibile. Lì ti devono bloccare, ma sai perché? Non è un autobus, è un aereo, guardi, non puoi passare così. Ma sai perché? Ma poi, cioè, ma pure quando sali sull'aereo, comunque ci stanno assistenti di volo. Sì. Dici che biglietto c'è? Vabbè, tu gli fai vedere il biglietto. Secondo me è un complotto, comunque, chiaramente. Certo, poi è strano perché questo non ha trovato, ma perché non ci sono neanche posti assegnati su Ryanair, mi sa. No. È quello il problema, quindi entra. No, allora no, i posti assegnati ci sono, tu hai il posto, sul biglietto c'è il tuo posto, il discorso è che se te lo vuoi scegliere tu lo paghi, se no te lo assegna Ryanair d'ufficio, ma quando fai check-in c'era già il biglietto. Okay, perfetto, quindi lui è entrato dentro, lui è il signor Mario Rossi, è entrato dentro tranquillamente. Esatto, e gli ha detto anche evidentemente che non c'è stato un accavallamento, si vede che l'aereo non era pieno, perché se no al posto di Mario Cucureddu avrebbero trovato, che ne so, Nicolino Di Bari, seduto, che doveva stare nel posto giusto, no? Giustamente, poi sarebbe stato meglio, perché magari saltava fuori subito la cosa, però certo, questo poraccio, cioè, alla fine, sì, può succedere che ti sbagli, però non te dovrebbero far proprio passare. Allora, ragazzi, l'errore è doppio, secondo me, perché fase 1, al check-in, all'imbarco, il personale di terra deve verificare e farti passare. Errore 1. Errore 2. Quando sali sulla scaletta e arrivi la hostess deve vedere anche per vedere dove ti devi sedere. Quindi in due punti non c'è stato controllo. Biglietto, probabilmente era è quello elettronico. Non so che cacchio hanno fatto. Cioè. A parte, no, vabbè, forse nel biglietto non che arriva scritto, in aereo non c'è il nome, c'è solo il posto. Vabbè, sì, può darsi. È un po' che non prendo un aereo, quindi questo dettaglio un po' mi sfugge. Però voglio dire, insomma. Non è una cosa che se tu fai salire su un aereo una persona che dovrebbe stare dall'altra parte, quanti cazzo ne possono salire? No, ma poi tu pensa ai disagi, pensa a sto povero Cristo che si è trovato a Bari, che poi deve aspettare la burocrazia di qualcuno che prende atto dell'errore, gli trova la rotta di ritorno da Bari, perché poi magari in tutto questo non escluderei che una rotta diretta tra Bari e la Sardegna manco ci sia. Ma è capace. Quindi magari questo è dovuto pure rimbalzare, non so, non so l'aeroporto di partenza effettivamente. Fatto sta, salutiamo Lallabai. Oh, ciao, quanto tempo, ciao Lallabai. Fuffa, beh sì diciamo che ne abbiamo raccontate tante. No, Ryanair è proprio merda, mo non è per vabbè, io la odio e so che anche di fronte a quanto mi fa risparmiare, io piuttosto veramente me ne sto a casa, insomma, perché... No, se non c'è alternativa, nel senso, se vuoi andare in Irlanda devi volare con Ryanair, non ci stanno santi, perché insomma... Però se posso evitare... Ci stanno, San Crispino, San Francesco, certo. San Lusiano... Sant'Andosta ce l'ho certo. No, però insomma, dai, voglio dire, no, mi sono perso un pensiero per strada mentre salutavo Lallaba e tu dicevi questa cosa. Però sicuramente, dicevo, probabilmente da oggi qualcuno, io credo che Ryanair avrà almeno uno o due dipendenti in meno da oggi, insomma. Ma gliene frega anche, guarda, io quello che ho imparato dopo quello che tanto li dovevo mandare via. Allora, dopo quello che fanno con i cosi, con gli handicappati, con le cose, con le sue carrozzine, su gente che piano buttano, gente fuori dall'aereo, cioè voglio dire, Ryanair è capace di fare qualsiasi cosa e manco gliene frega niente. Io quello devo dire, quello che ho trovato, ma proprio anche per politica scortesia, cioè nel senso, noi dice, io oggi me lo del culo, sono scortese. No, tu quando sali su Ryanair, comunque questa cosa c'è sempre. Questo atteggiamento ostile che c'è stato da parte dei. Cioè, insomma, ma pensa, io ricordo più brutto... Pensa alla povera hostess, dice questo, un altro, qui appesiamo troppo, gnafamo, stavolta gnafamo, porco zio, un altro ancora, sale porco zio, questo gnafamo, non arriviamo, che poi ricordiamoci che... C'avevo benzina filo, mamma mia, capito, sì. Che poi il dubbio è quello. Ryanair c'ha i sedili quasi... Non ti dico che sarebbe perché più gente entra e meglio. Vabbè, quelli sono gli A320 per fare tratte brevi che sembrano autobus, non è? Ce li ha pure Vueling, Alitalia, chi te pare, sono tutti uguali, eh. Guarda, io con Welling e con German Wings, tutti questi qua, ci ho volato e te devo dire la verità. Anche lì sono aerei diversi, però. Non erano a 320, proprio quelli, sono proprio quelli piccolini. No, comunque, come me ne trovo male quando vado su. Ma vabbè, ma quello, guarda, io ti dico. Tu aspetta che te fanno stampieri durante il viaggio e poi vedremo. Ci arriveremo. Guarda, io ti dico questo. È vero che con Ryanair arrivi a New York con 350 euro, cioè, se arrivi. No, ma arrivi. Guarda, Norwegian Air, c'è una compagnia Norwegian Airline che te ce fa arriva anche con meno. Sì. E sono molto più che era quella che ci mandava a Tenerife a pochissimo costo perché c'era il volo diretto, ma me l'hanno levato perché non conveniva. No, vabbè. Io ti posso dire una cosa, guarda, mio malgrado ho volato diverse volte con Ryanair. I ricordi più brutti sono: uno, il fatto che sali dopo un po' ogni singola tratta, ti devono rompere le scatole cercando di venderti dei biglietti alla lotteria di non si sa bene quale lotteria, vabbè, irlandese, quello, okay, vabbè, che possono avere biglietti che possono vendere soltanto in praticamente quando sono decollati, perché penso Porto che Franco, sul suolo Porto Franco. Esatto, perché sul suolo non sono legali o qualcosa del genere. E se poi diventi milionario? Se poi te ne penti invece. E se poi te ne penti? Vabbè, te ne penti, basta, quanto è? 5 euro? Insomma, ma chi l'ha mai comprato? Io, no? Guarda, non compro niente su Ryanair, ma se devo ricordati, mi compro la zuppa di pollo. Quella... Ma sai perché? No, io guarda, sull'aereo evita. Ai minimi storici. Esatto. Evita, sull'aereo cosa, vero? Cosa? Tutta la fiducia. La fiducia, che quello è importante. Poi ho due ricordi inquietanti. Una volta andavo proprio in Sardegna, ma per lavoro, e c'era uno steward che era... Noi avevamo presente la prima fila. Padre, davanti a noi c'era lo strapuntino con le hostess e lo steward. E sto steward ci aveva... Non sarà stata colpa sua, ma gli puzzavano i piedi. Ma quanto credo, gli puzzavano i piedi. Capita. Scusa, ma che c'era scalzo? Come dice l'Abbi Frontali, no, la compagnia preferita dei neonazisti. Infatti si chiama Ryanair in realtà. Ma guarda che il presidente della Ryanair sia mezzo fascio. Dice il pensiero. Non ve lamentate della lotteria. Immaginate che fra 10 anni o forse meno potrebbero aprire direttamente il portellone e dico, me da 5 euro salti. E può darsi. Quindi non ve lamentate. Vanno stesi, no, comprate il biglietto. Io ricordo... Fatta lamentare. Ricordo che per un periodo c'era stata la suggestione che Ryanair potesse cominciare a fare come fanno sugli autobus quelli per le vacanze organizzate, che durante il viaggio provano a venderti la batteria di pentole. E mi ricordo che c'era questa possibilità che facessero delle vendite... Delle televendite in diretta. Sì. Poi non so, insomma, ripeto, io Ryanair l'ho usato solo per... Oddio, credo anche per qualche tratta internazionale, però comunque è brevissimo, cioè insomma sempre sotto le 2 ore di volo, quindi però... Comunque ci dice Pier G che nella sua provincia arrivano gli stranieri per andare a un centro commerciale che è a 1 chilometro dall'aeroporto Orio al Serio, che cos'è? È l'aeroporto di Bergamo. Bergamo, sei bergamasco, sei dell'Atalanta, no scusa, dai, scherzavo, dai. No, non fa così, no, stavo scherzando, dai, te voglio bene. Magari non è dell'Atalanta. Sì, comunque la so anch'io questa storia. Turisti anche, diciamo, facoltosi, russi, eccetera, sbarcano ad Orio per fare shopping. Ovviamente stranieri, perché vanno a comprare marchi italiani. Sì, sì, nel senso che non è che lo fanno gli italiani di Messina, quello voglio dire. O gli italiani stranieri. Gli stranieri di Stranierlandia, veramente. Gli stranieri. La Stranierland. La Stranierland. Da Essos. Vabbè, non parliamo di questa cosa, che domani poi domani grande puntatone domani. Ricordo il titolo che spoilerà già tutto, il titolo in carrozza. Pizzi, però a questo punto io mi metterei l'abito solenne, me lo permetti? Te devo mettere che cosa significa l'abito solenne? Ok, allora sì, giusto, vai. Sembra la stessa. È il pensiero che conta. Perché come mi ha detto ieri a un certo punto in chat Peppe Rizzard, Niki Lauda si è spento di nuovo. No, scusate, è brutto, però bruttissimo, mi fa tanto ridere, è però... ridere sulle persone che muoiono, però a me quello che mi dà fastidio, anche se sta cosa un po' era sparita, ve lo ricordate, c'era quel periodo in cui moriva qualcuno e tutti a scrivere insegna agli angeli a fare questo. Ci sta ancora. Beh, quando muore qualcuno... Poveri angeli! Ragazzi, quando muore qualcuno, diciamo, non di famoso, ma giornalisti vanno a intervistare, era una persona solare. Ma che minchia vuol dire? Guarda, io ti devo dire la verità. quando, cioè, io vedo che diciamo, padre ammazza i figli e vanno a intervistare i vicini, ma erano tanto delle brave persone. Ma è accorto, bravissime persone. Cazzo, sai, io a me se poi vengono a me, io dico no, no, io sapevo che stavo pure sui coglioni, sti stronzi. Anzi, anzi, troppo sono durati, secondo me. Però insomma, ragazzi, dai, al di là della battuta cinica, che però insomma ci stava, faceva ridere. È venuto veramente a mancare Niki Lauda, che è uno che veramente nella vita è stato un guerriero, perché al di là della carriera, anche un po' infame, vabbè, però diciamo non la mandava, se doveva fare una sportellata la faceva, però insomma, per esempio, non so, la carriera sportiva più o meno se la ricorda chi ha la nostra età, quindi la carriera lui era il ragioniere delle corse, quindi alle volte non si prendeva il rischio che magari si prendeva un altro pilota, ragionava un po' di più, alle volte si è anche rifiutato di correre, tra l'altro quando ha fatto l'incidente, se vi ricordate, l'incidente in cui è rimasto sfigurato, lui non si era rifiutato di correre per il maltempo eccetera, gli altri piloti hanno detto no, noi siamo piloti di Formula 1 quindi corremo, e la tragedia si è consumata. Però lì è iniziata tutta una nuova lotta, perché al di là del fatto che lui lì si è devastato praticamente non soltanto il volto ma anche in maniera abbastanza seria i polmoni, tant'è che i medici erano preoccupati per i polmoni, non tanto per le ustioni, quelle si sapeva, insomma, diciamo, da quelle sarebbe potuto guarire da un punto di vista funzionale. Non ricordate il cartone animato dove c'è stava lui sempre che era tipo una mummia, che era sempre bendato? Che non si diceva che era Niki Lauda, non era Niki Lauda, però era chiaramente riferito, certo. Credo che fosse Ken Falco, no, o Grand Prix. Grand Prix. Vabbè, insomma, lui da lì ha lottato tanto, perché al di là della carriera poi sportiva, molti magari non l'hanno seguita questa cosa, però a parte il fatto che è diventato un imprenditore di successo, prima ha fondato, a proposito di aeroplani, la compagnia aerea, la Lauda, due, Lauda, prima la Lauda Air, che poi ha venduto, e poi ha fondato la Niki Air. Ah, però nel frattempo, due, e non uno, due trapianti di reni, e più di recente, meno di un anno, esatto, meno di un anno fa, scusi signor Lauda, scusi, ma questo gli avremo due reni, così almeno uno no, ma non è che gli hanno trapiantato due reni, ha fatto due volte il trapianto, sì, di reni, che è un po' diverso, sì, cioè, due volte, ma certo, perché la prima se l'è magnato, certo, e poi pochi mesi fa, meno di un anno fa, il trapianto di polmoni. E quindi voglio dire, insomma, non l'ha superata bene. È evidente. No, lui era ricoverato, in clinica. 70 anni, non era neanche tantissimo. Vabbè, però per stanco le condizioni. Sì, infatti. Insomma, mi spiace, insomma, era anche un po' un personaggio che alla Formula 1 mancherà tanto, perché comunque poi anche da dirigente ha fatto varie cose, ha lavorato in Ferrari, ha lavorato in Mercedes, quindi insomma, si è dato tanto da fare. Dispiace, sicuramente i più giovani, che non sono chiaramente il nostro target di riferimento, perché ci ascoltano, perché i nostri coetanei, così diciamocelo, magari neanche tipo se ci fosse Cusella oggi, no? Gli chiedessimo, Cusella, no, chi era Niki Lauda? Niki Lauda lo sanno, le cose che hanno a che fare con le macchine, i motori, queste cose. Vabbè, sì, Cusella, sì, è vero. Quelle, perché le sa tutte, insomma. No, ma più che altro perché oggi poi ho visto proprio il meme. Però, aspetta, però mi devi concedere di dire un'ultima cosa. Niki Lauda, no, ho letto questo, ecco perché ti stavo a fare di quella cosa che ho detto prima. Niki Lauda è partito per l'ultimo GP. Cioè, sì, queste sono frasi retoriche, ma infatti non a caso. No, dai, cioè, no, ma che cazzo vuol dire? È ai minimi storici, chiaramente, come potrebbe essere, tanto in chat parlano, sì, sì. Buttaci un occhio ogni tanto, e che so, Igor, vediamo un po', no, raccontavano, dice, vabbè, stanno parlando del centro commerciale di Bergamo, quindi come al solito, proprio del centro commerciale, no, ma che è successo in questi giorni, hai fatto qualche cosa, uno stand, sì, e tra l'altro oggi mi ha contattato un amico mio da Salerno e dice, ma che succede a Monterotondo, gli dico, no, è un sacco di cose, che succede a Monterotondo, niente, no, perché mi è arrivata una cosa, ho visto a Monterotondo partecipare, no, ma no, vabbè, che lì ho fatto questo evento e ho fatto inviti indiscriminati, quindi insomma potrebbe essere capitato, insomma, ah, vabbè, allora fa anche però fa culo, esatto. Allora chi te se incula, esatto. Perché è un amico, comunque, noi al centro commerciale di Monterotondo durante questa settimana abbiamo lo stand, ma in particolare sabato e domenica io e Michela saremo presenti allo stand per incontrare, è arrivato Enrico, ciao Enrico, insomma, incontrare tutti, presentare magari eventuali promozioni, ma anche offrire un caffè alla gente, insomma, fare Ricordatevi che noi abbiamo un'agenzia di intermediazioni e assicurazioni, e quindi insomma quello è il nostro lavoro. E allora oggi abbiamo fatto questa pubblicità che è arrivata un po' a tutti, e c'è gente che ne so, da Pordenone, che mi dice: mi è arrivata sta cosa, che no, cazzo ci devo fare? No, no, tranquillo, è tutto a posto. Ma racconta quanto è bello lo stand. Bello, lo stand è bello perché noi c'abbiamo quasi uno standino. Chiaramente noi abbiamo affittato lo spazio pubblicitario in un punto anche strategico, un centro commerciale dove tra l'altro nel fine settimana in particolare ci sono, c'è un grosso flusso di gente, insomma, perché... Sì, diciamo che chiamarlo centro commerciale, come dire, è un po' come dire un piccolo centro commerciale, è un centrino commerciale anche un po', perché il supermercato è grande, poi ci sono un paio di negozi sopra, vabbè, comunque è un'aggregazione commerciale, ma più che altro la cosa bella è che fanno molte iniziative esternamente. Sì, è vero, sì, è vero. Quindi comunque c'è sempre un grosso flusso di gente. Allora noi abbiamo affittato questo spazio per fare questo tipo di pubblicità, e allora giustamente abbiamo chiamato la compagnia e abbiamo detto: ma non è che ci avete uno stand, una cosa, insomma, fa bella figura? Ci pensiamo noi. Non compra niente. E allora poi io ho detto: vabbè, Michele, prima di fare l'evento sulla pagina Facebook, montiamo lo stand, gli faccio la foto, così faccio... E quando abbiamo montato lo stand, ho detto: cioè, senti, ecco, è meglio che non la mettiamo la foto. Ecco, la foto la faccio del centro commerciale da De Fori, perché forse è meglio. Perché però io non so se l'organizzazione tutto storto. Una domanda, Pizzi: questo evento l'avete organizzato inconsapevolmente o consapevolmente rispetto al fatto che ci sarà il fine settimana dedicato tipo alla sicurezza stradale, all'insegnamento della sicurezza stradale per i bambini o qualcosa del genere? Perché c'è, ci sono i manifesti, sui bambini, sì, sì, che ha a che fare con la sicurezza stradale, quindi secondo me cascate anche bene. Sì, può essere, sì, sì, può essere. Anche se noi comunque puntiamo più su altro tipologia, insomma. Sì, conviene assicurare i maggiorenni, perché forse c'hanno una macchina. No, sì, ma anche magari cose che non riguardano necessariamente la macchina. Ah, non il ramo auto? Tipo aziende, famiglie, case, animali, cani, anche gatti, che poi adesso pesci. C'è anche la polizia sanitaria degli animali, io pensavo, non so perché, io vabbè, ho una visione un po', come dire, banale del ramo assicurativo, penso sempre macchina, la macchina, come sono stereotipale. No, in realtà è un ramo obbligatorio, però non dico che è un ramo morto, perché è quello che ti fa campare poi alla fine. Però insomma, diciamo, perché che... l'unica assicurazione obbligatoria fondamentalmente, se hai una macchina ti devi assicurare. Sì, è la base, è la base sulla quale si reggono tutte le agenzie. Poi in realtà le agenzie tu le sviluppi sugli altri rami, cioè nel senso, se no non ci avrebbe senso. Ragazzi, volevo un attimo tornare al discorso di Niki Lauda, perché Peppe Rizzard ci diceva: se non l'avete visto, guardate Rush. Rush è un film che parla, allora devo dire che tra l'altro uno dei film, non so quanto sia stato romanzato, che a Ron Howard sono riusciti, perché non li riescono tutti secondo me. E ora, al di là del fatto che c'è Favino che fa Clara Ragazzoni, che è un po' un tormentone quando c'è Favino. Ah, Michele dice uno stendino per il centrino. Sì, per il centrino. Bravo. Però devo dire che Rush romanza molto le cose, perché poi ad indagare, a quanto pare Rush è la storia della rivalità tra James Hunt e Niki Lauda. In teoria il protagonista è Chris Hemsworth, Thor, che fa James Hunt. Al di là del fatto che insomma, questo c'era delle spalle che non so come c'entrava nella macchina, gliela saldavano intorno, vabbè. Però in realtà nella vita pare che lui e Lauda non fossero poi così rivali, ma che fossero molto più amici di quanto non si racconta. Tra l'altro Niki Lauda è uno che ha sempre detto di avere solo dei quasi amici, di non avere amici, perché comunque aveva un carattere abbastanza spigoloso in per vita, me quindi... era un po' una merda pure lui, cioè nel senso, sì, aveva il suo modo teutonico di intendere le cose e... vabbè, non è che i teutonici non c'hanno amicizie, è proprio lui che era così, cioè nel senso, era un po' particolare come personaggio. Non ci ho mai avuto grossa simpatia, devo dire la verità, Ma non ti ispirava simpatia, no, sicuramente, però insomma non... Ti mai raccontato una barzetta? No, ma si parla così, poi non la capivo. No, perché te la spiegava in tedesco. In tedesco, esatto. Ti fa ride? No, peggio per te, italiano di merda. Capisci italiano. Sempre pare casino. Esatto, bravo. Italiano, mafia, spacchetto e mantolino. Ma poi c'è, nel senso, il problema secondo me è, cioè, tra me e Niki Lauda, cosa sarebbe mancato secondo te? Cioè, una cosa importante, secondo me. Perché non mi si muove il dito. Ok. Ai minimi storici. Cosa? La fiducia. La fiducia, esatto. Quello sarebbe mancato fra me e lui. Quindi... La fiducia ai minimi storici, tra l'altro, verso la Ferrari, che sono 10 anni che non riesce a vincere il mondiale. Se proprio ci vogliamo ricollegare. La figura anche di sti cazzi. Però vabbè, perché con la Ferrari lui ha vinto 2 titoli e poi che ha fatto? Se è andato a McLaren. Cioè, un po' come... In realtà prima si è ritirato, poi si è reso conto che non c'aveva voglia di fare il pensionato e è tornato a correre con la McLaren, esatto, dopo 3 anni. Sì, è come Kolarov, che gioca gli anni nella Lazio e poi a un certo punto diventa giocatore della Roma. Cioè, si fa Pecunia, Nanolet. Lo so, però sai, alcuni non l'hanno fatto. Non hai citato Zeman? Ah, Zeman, vabbè, Zeman. Vabbè, ma Zeman, allora, da Zeman lo capisco, perché veramente Zeman è sopra le parti, cioè proprio non... Non si incula nessuno, sai, esatto, certo. Esatto. Cioè, però, sai, per il giocatore è un po' diverso, cioè, alla fine... Tanti avrebbero potuto fare magari quella scelta, non l'hanno fatta, alcuni l'hanno fatta. Ma alle volte magari, sai, subentrano delle dinamiche che non hanno a che fare tanto col calcio quanto col contesto. Magari a uno gli piaceva tanto lo star a Roma. No, no, lui voleva tornare a Roma, quello era sicuro. Cioè, e allora probabilmente dice, non potendo tornare alla Lazio, alla Roma ci cascano. Sì, però poi, insomma, alcuni atteggiamenti, sai. Comunque, insomma, sono tutti quei soggetti che giusto a Roma arrivano, perché noi ne raccogliamo di ogni tipo. Sì. Ah, tra l'altro, non so, se sempre ritornando alla finale di Coppa Italia, so se avete visto la scena bellissima. De Mihailovic che col Vigile Urbano, allenatore del Bologna, che per andare a vedere la finale ovviamente passa in mezzo alla guerriglia. Posso fare una battuta? Quanto ci fai che è l'allenatore della Lazio? No, non credo. Vabbè, poi ne parliamo. No, forse perché io ne vedo più un altro, però dopo facciamo le scommesse. Comunque, lui passa in mezzo alla guerriglia, c'è stato una specie di conciliabolo con Vigile Urbano che gli dà dello zingaro. Oggi l'hanno trovato, hanno capito chi è oggi, l'hanno identificato dai filmati. Che... Non ho capito se lo puniranno in qualche modo, no, però l'hanno... Ci sarà un provvedimento disciplinare, ma poi io penso che a Mihailo c'è il provvedimento disciplinare delle persone, che ne frega un cazzo. Io va lui mena. Ma sicuramente se non fosse stato per l'arte di poliziotti lo sdormava, perché Mihailovic era l'unico che camminava come... come te posso dire, Capitan Harlock in mezzo alla guerra, cioè lui che, ma perché lui, ora, al di là dell'offesa, diciamo, ce l'ho un po' zingaro, no, nel senso che insomma è slavo, non è abituato alla guerra, no? Cioè, nel senso, sì, è uno di quelli che abitano, e che lui tutto esplodeva intorno a lui e lui camminava e tutti, oh, no, no, zingaro, zingaro, chi ha detto zingaro. No, no, perché non glielo devi fare tu. Io sì, sicuramente mi calo Mihailovic, c'è uno qualche uno che non vorrei fare incazzare. In generale agli slavi non gli, esatto, vorrei ma Mihailovic, ricordiamoci che per lo slavo medio, mo scusate se faccio logo comune, ma per lo slavo medio la vita umana non vale un cazzo, ecco. Così, diciamo che sono dopo la Jugoslavia sono stati un po' abituati a sta cosa. Poi i serbi, sono loro, è serbo poi, i serbi. No, grande madre Serbia, hanno un po' sta cosa, sta visione un po', come posso dire, uberalles del loro essere rispetto agli altri. Comunque, vabbè, è finito tutto. Senti, ma vogliamo parlare di calciomercato, o meglio di Toto allenatori, perché si sta a scomporre praticamente tutto l'ecosistema degli allenatori italiani. Non qua. Me frega un cazzo. Allora non mi frega un cazzo. Allegri si è arrivato alla Juve. Ma perché, Gualdi c'eri? Non sapevo che c'eri. No, non ti avevo notato, dicevo. No, vabbè, Allegri è ufficiale, quello non è una notizia, ormai si sa, l'hanno detto. Però posso dire una cosa su questa questione, mo di là, vabbè, non ci frega un cazzo il calcio, però umanamente io penso una cosa, cioè tu sei l'allenatore che ha vinto 5 scudetti di fila, no? Quanti ha vinto? Tipo... 5 scudetti, ma non ha azzeccato una Champions League, non ha mai manco Ronaldo. Ma non è che la Juve ha mai eccelso nei Champions League, sì, è vero. Comunque nella sua storia fa la sua bella figura là, arriva lì a quei livelli, poi primi con meno, poi vabbè. Comunque, poi menano. È vero che dice, sai che noi se volevamo, a me fa vedere una conferenza stampa due persone che si vogliono tanto bene, che si stimano profondamente, però no. Cioè io queste cose ne capisco. Vabbè, è un modo di far vedere che insomma si lasciano amichevolmente. Anche perché stando ad Allegri, lui che prende 7,5 milioni a stagione da Juventus, Agnelli è andato là e ha detto, vabbè dai, ti do 8 milioni a stagione per il prossimo anno. Lui ha detto, no, a me dell'ingaggio dei Ferzi non me ne frega un cazzo, me devi dare delle garanzie, che so quelle te. Venne sti due giocatori e comprà Gesù Cristo. No, senso. E che chiaramente secondo me la Juve, dopo quello che ha speso durante questi anni, un po'... Sorry, we have no money for Jesus Christ. La Juve un pochino... Gli diciamo, comincia a roder culo. No, a roder culo, più che altro dicevo, però qui tocca un attimo... Tocca guagliare. Fa la quadra, insomma, perché insomma, se non è che stanno spendendo soldi a buffo... No, beh, ma poi non solo, voglio dire, dopo che hai fatto un recuperone della Madonna agli ottavi, poi esci dai quarti come sei uscito, non è... Ma secondo me la Juve ha fatto un paio di colti del governo quando aveva fatto il reddito di cittadinanza, no? Tanto buttavano dei soldi così, che poi ci rientrano. Con la Champions, ma allora, con la vittoria della Champions ci rientra. Allora, no? Si ragazzi, dice di un Cristiano Ronaldo contrariato, leggermente infastidito, un po' interdetto. Sì, no, qualcuno ha detto che stava facendo un pochino di flirt col Real Madrid per tornare, però insomma, potrebbe venire pure alla Lazio, certo. Se lo Tito paga, guarda, poi arriva pure Messi. Beh, non è questo, cioè, dovrebbe sempre pagare. Dovrebbe giocare da solo, però potrebbe farcela. Insomma, no, vabbè, lui basterebbe giocare gli da basta solo, un portiere. Però dai, esatto. Sui portieri a Roma pure non è che siamo sempre particolarmente, no, gli basta un portiere. Eppure c'è stato un periodo di grande tradizione da quel punto. Allora, in realtà sulla Lazio non sono tantissimo, diciamo, ferrato, sono rimasto a Fernando Orsi, no? Ciao Leo Varga. Però la Roma, soprattutto in questo periodo, ha un preparatore dei portieri molto bravo, tant'è che ha fatto esplodere Szczęsny, ha fatto esplodere... No, sì, è... perché ha fatto esplodere anche grande botto Szczęsny morto, Allison, che ora è diventato forse in prospettiva il più forte portiere del mondo, magari insieme a Donnarumma, solo che poi li vendono, devi fare. No, però dai, facciamo un po' di toto allenatori, perché ok, fondamentalmente le panchine che cambieranno quasi sicuramente sono tutte l'Inter, perché Spalletti ti pare che se ne va, il Milan probabilmente, ma secondo me Sarri va alla Juve, anche se Sarri secondo me non è da Juve ma va alla Juve, se parte Inzaghi secondo me va al Milan. Allora ragazzi, se Sarri va alla Juve e gli dicono te devi mettere la giacca, Sarri si suicida. Ma infatti secondo me non firma il contratto, cioè secondo me è un po' questo, no? Io sai, cioè la Juve è dai tempi di Lippi, del primo Lippi, che non c'è un allenatore in tuta, quindi non credo che... Vabbè, però vabbè. Questo, ma non è tanto quello, è proprio il comportamento. Beh, se le generale, a parte che Sarri, no, ma poi Sarri deve giocare con 11 giocatori, gliene da 12 non si sa regolare, quindi io non credo proprio che, però... Insomma, vabbè, però poi è entrato un po' nel... cioè, allora, se io dovessi scegliere tra Sarri, cioè io ti dico, se dovessi scegliere tra Sarri e Inzaghi... cioè scegliere comunque Sarri, che comunque ha comunque raggiunto più secondi posti, wow. Ah vabbè, però comunque tu prendi un allenatore che so 3 anni che allena in Serie A, così, perché comunque è uscito fuori dalla primavera della squadra, cioè io personalmente non lo farei. Ma Inzaghi, se dovesse partire, secondo me lo vede al Milan, perché secondo me la Juve non lo prende, non... Sì, ripeto, non lo so, ma tra tutti e due secondo me la Juve sotto sotto ancora ma gli ci vogliono troppi soldi, però è chiaro che il punto d'arrivo sarebbe uno, Guardiola, però insomma sì, loro puntano a quello, solo ma lui ha detto gli devi dare da 30 milioni all'anno, dai, non si può, cioè anche lì. Beh, i soldi sono arrivati ad sì, un livello per gli allenatori, sì, secondo me, ma pure per i calciatori, ma per gli allenatori in particolare, perché comunque l'allenatore poi alla fine sì è importante, però cazzo, cioè nel senso 12 milioni a stagione a un allenatore, oh. Cioè nel senso a Roma e a Lazio 12 milioni c'è, cioè, un primo no, cioè, esatto, cioè, pagano tutto il monte stipendi, esatto, cioè, nel senso, ma poi questo è il problema fondamentalmente dei Daliek, cioè, il 99% delle squadre ci pagano tutta la squadra, allora. Comunque, tornando al nostro dottor allenatore, si parla con insistenza di Gasperini alla Roma, però io mi dico, la Roma Gasperini in Champions League, Carbonaro. Esatto, Gasperini è bravo, a me piace, sì, però ti dico, se resta all'Atalanta fa la Champions, se viene a Roma al 99% oggi la Champions non se la fa, ma perché? Se l'è conquistata lui in 3 anni di fatica, la Champions ora non la va a giocare? No, secondo me Gasperini rimane all'Atalanta. A me piacerebbe Gasperini, per esempio, però secondo me rimane all'Atalanta, cioè lo vedo proprio... Se vanno in Champions, no. Ma sì, l'Atalanta non ci sono. Se cioè, non vanno in Champions, cosa che potrebbe anche essere, perché insomma, non è detto che stava portando la casa. Cioè, devono vincere l'Inter e il Milan, e deve perdere l'Atalanta per non andare in Champions. Lo so, però l'Atalanta con chi gioca. No, sono tutte e tre partite relativamente facili. Vabbè, comunque dai. Quindi a Roma chi viene? A Roma, alla Lazio e alla Roma, secondo te? Alla Lazio, se. Perché io dico Mihajlovic. De Zerbis. Vabbè. Sì. O Mihajlovic, sì, questi due, insomma. La Roma non lo so proprio. La Roma, diciamo, si parlava appunto di Gasperini, ma a me sembra tanto. La Roma dice tanto che ha fatto un'offerta per Conte. Quello no, vabbè, si aggira dall'altra parte. Se non ha fatto la risata isterica. Forse è il presidente del consiglio. Esatto, può essere. Ah, può essere, sì. Quello no, sì. È vero, l'ho letta sta cosa. Sì, sì, ma settimane fa si diceva, però Conte mi pare che abbia gentilmente glissato. C'avevo 500.000 euro, vabbè, lascia sta, guarda. No, ma il problema è che la Roma l'ingaggio a Conte glielo paga pure, non è che non glielo paga. Secondo me sì, secondo me la Roma ce l'arriva a spendere. Il problema è dopo, che nel frattempo smantelli e non compri, non perché c'è la squadra. A Roma non si usa comprarli i giocatori, si usa venderli. No, proprio questa è una cosa laziale, proprio, cioè, no, del, ma nel senso di Lazio. Sì, pure proprio Frosinone fa così. Sì. In generale, diciamo che è come quando, cioè, tu pensavi al fatto... Aspetta, Pizzi, diciamolo. No, perché poi tu lo sai che... È ai minimi storici, sì. Sai che si parla anche cioè nel senso si è fatta il nome anche dell'argentino là, quello che si doveva prendere la Lazio. Pochettino? Poi, no, Bielsa. Esatto. Ma pure Bielsa costa una palla. Allora tu però dai 3-4 milioni di euro a stagione a uno come Bielsa, che poi pure lì... No, credo che prenda di più, al momento almeno. Ma in realtà quando si parlava dell'offerta del Lazio, insomma, pareva che, a parte che lui voleva che tu gli costruivi tutto l'impianto sportivo in una certa maniera, cioè un altro matto scocciato. Comunque, vabbè, Ma al di là di quello, tu puoi anche prendere il supernome, il super fenomeno. Ma il super fenomeno, al di là, ammesso non concesso che per qualche motivo te ci viene, cioè è meglio prendere un buon allenatore, magari emergente, e investì su una squadra che potenzialmente... Cioè, il problema è che qui mancano proprio i progetti, cioè nel senso... Ma che te va a progettare? Vinci tutta la Juve? Cioè, quella cosa, capito? Ma cioè, guarda, guarda, si, si può... Guarda che l'Ajax... Guarda che l'Ajax non è una squadra tutti, che... Cioè... Giocano tutti per la Champions. Ok, però l'Ajax, che fatto comunque... Alex? È arrivato, sì esatto, che è arrivata comunque in semifinale Champions League, non è una squadra da milioni di dollari, è una squadra che comunque ma stai in Olanda, di fischelli disgraziati, sì, che capito, correvano però è arrivata, come, però è arrivata in semifinale Champions League, capito, infatti ti sto dicendo, pensano tutti alla Champions League, non pensano al campionato di calcio, perché tanto cioè sono soldi. Pensa un po' in Italia, allora, questo... che non solo non pensano alla Champions, ma non pensano manco al campionato, perché tanto vince la Juve. È quello che te sto dipendendo. Penso solo alla qualificazione qui, Champions. Qui questo poi è un problema proprio tipicamente nostro, perché in Inghilterra comunque sono riusciti a fare grossi investimenti nel calcio e hanno fatto l'investimento sul movimento calcio in generale. Quindi oggi la squadra di Serie B in Inghilterra se lo compra il giocatore di Serie A italiano. Perché ce l'hanno i soldi, ma perché girano fare. Tanti soldi, però poi okay. Alla fine invece stringe. In Italia che è successo? In Italia è successo che tutto l'investimento è andato solo su, cioè tutti i soldi sono tutti concentrati sulla Juve. No Simo, secondo me sai cosa succede? E non che c'è stata mai un'equa ripartizione pure a livello dei diritti televisivi, niente, secondo me, cioè. L'Inghilterra sta vivendo oggi, anzi adesso sta già quasi al tramonto di questa fase, però negli ultimi 5-10 anni ha vissuto quella fase che l'Italia ha vissuto negli anni fino 80, primi 90, in cui tutti i soldi del mondo, del calcio, giravano in Italia, grandi giocatori venivano tutti in Italia, le squadre hanno bruciato nei bilanci miliardi di lire e poi di milioni di euro, e adesso stanno praticamente raccogliendo i cocci di un decennio del genere. Arriverà a breve anche in Inghilterra il Chelsea non può far mercato. Perché all'epoca, quando lo facevano gli italiani, non c'era il fair play finanziario, adesso c'è. Appunto, quello ti dico, era comunque diverso, cioè non c'erano gli obblighi de pareggio del bilancio, cioè alla fine le società magari finivano con 100 milioni de buffi e non cambiava un cazzo, perché tanto non erano società sportive e quindi se poteva fare. Giustamente, Enrico ci ricordo che adesso ci sarà la Superlega Europea, ne vedremo comunque altre situazioni. Io non ci credo ancora a sta cosa, insomma è un po' un azzardo. Comunque anche questo è l'argomento scacciafiga, io non vorrei dire niente. Okay, quando sì. Si parla, ma guarda calcio... che l'Alaba c'è saluto e si è addormentata. La c'è solo per la strada, infatti, sì. Comunque brutta notizia nel campo della culinaria, perché tu forse lo conosci. Mm-hmm. Jamie Oliver è andato in bancarotta. Io non so chi sia. Che ti vedevi sempre quello che faceva le cose. Il cuoco esperto di cucina molecolare italiana, anche che non sapeva un cazzo. Cioè, comunque era sempre, quello inglese. Sì, quello inglese. Ah, ma quello è coglione. Comunque, non a caso, 30 ristoranti e non so quanti dipendenti. 1000 dipendenti a casa. A palle per aria. Vabbè, tu vai a fare la televisione invece. Ma quello un po' l'ha salvato. No, perché la televisione gli ha dato il volano per investire. È investito, però poi se non si cucina. Ristoranti pseudo italiani che italiani c'erano un cazzo. Che poi sono andato a picco. Sì, perché lui faceva che andava in Toscana, faceva vedere che l'olio d'oliva è buono. E poi mette l'olio di ricino. Questo faceva perché ovviamente faceva schifo. No, va bene, lasciamo stare. Infatti, andare a picco. Ragazzi, a proposito, a proposito di andare a gambe all'aria, eccetera, io mi ricordo che di coccodrilli c'erano altri, solo che col fatto che i giorni sono passati, sono trascorsi, abbiamo saltato anche un giro. Non le segnate le cose, ma che professionisti. Dai, allora, un appello ai nostri ascoltatori che sappiamo. Chi è morto sti giorni? Dice, Doris il gatto, Day è morto, il gatto è morta, anche Doris Day, per Doris esempio, Day sì. Che non so chi sia, quella sempre attrice cantando sotto la pioggia, bla bla bla, vabbè, insomma, dai, momento di triste mestizia. Io sono andato a vedere Sale Olio. Carino. Era retrospettivo, allora, ridere. È una storia d'amore, poi fondamentalmente, perché a volte anche le storie d'amicizia possono essere, tra virgolette, storie d'amore. Ma io non ho capito se lì c'era un velato riferimento a una loro presunta omosessualità. Sul trailer ti lascia pensare a sta cosa. In realtà nel film sta cosa non è richiamata, cioè proprio per niente. In realtà, anzi, loro, cioè, si basava sul fatto che loro hanno portato avanti per anni, per un decennio, un rapporto di collaborazione e d'amicizia, anche se entrambi si erano rancorosi per un tradimento che si erano fatti a vicenda. Tipo Boldi e De Sica? Sì, perché praticamente c'era tutto un discorso di contratti e Olio fece questo film da solo e Stanlio praticamente sta cosa l'ha sempre taciuta perché credeva comunque nel loro progetto, nel loro fare le cose insieme, però poi dentro lui, il cielo si cava. Però lui l'ha sempre un po' come Mauro Repetto, diciamolo. No, bello, guarda, devo dire un bel film, mi è piaciuto, costruito bene, costruito per essere in quel modo lì, cioè nel senso, sai, questi film che un po' devono far venire quel briciolo di commozione. Un film da Oscar, insomma, da serata nell'Oscar. C'è stato. Non lo so, se l'avessero voluto giocare forse, così non sarebbe uscito forse, in primavera. Forse un po' meglio. Cioè, nel senso, no, secondo me è un buon film. Cioè, vale proprio la pena. A me è piaciuto. Sono anche un po' commosso, devo dire, alla fine. Perché c'è sta cosa de... C'è sempre qualcosa magari che richiama magari esperienze che abbiamo fatto noi, il nostro modo di vedere l'amicizia o... Io sta la odio. Aspetta, sto guardando Gualdi e Pizzi vicini, cazzo. No. Cazzo. Cosa? Corrispondete un po', la fisicità un pochino vi richiama a Stadio Olio. Stadio no. Con rispetto parlando, insomma. No. Non mi somiglia per niente. No. Vabbè, comunque. No. No, guardi, tu che hai visto al cinema? Hai visto qualcosa? Ho visto Endgame ultimamente, quello è bello, ma abbiamo già parlato. Ma lo possiamo dire che Iron Man muore? Ma l'avevamo detto anche l'altra volta, anche se non lo dovevamo dire. Che non lo sapevamo, ma l'ho visto sul trailer. Regà, è uno Stark, tutti gli Stark morono. È vero. Cioè, ci sta cazzo. Vero. Eppure pare di no, poi alla fine. Vabbè, ma quelli che restano so coglioni. Perché come si dice, alla fine risarcimento, dai, c'è sempre un risarcimento morale. In forma specifica, diciamo così. Ma ragazzi, sapete la gente sui social turbata dal fatto che mai ha scopato? Cioè, proprio... Aria, scusate, le inverto sempre. Sì, perché c'è questa cosa del perché una vista ragazzina, ma c'è allora, aspetta, fermi tutti. Allora, posso dire che no, cioè nel senso non mi ha turbato, però devo dire che la sensazione la fa perché... Sì, perché cioè, lei era veramente una bambina, tu l'hai vista, quando la vista nasce, come la tua sorellina. Ce l'hai ancora che c'ha 12 anni nella testa, capito? Cioè, cazzo, quindi... E comunque poi, tra l'altro, quando era ragazzina era anche più bellina, cioè, diciamo, adesso è un mostro, cioè... Con tutto il rispetto, non è mai stata particolarmente caruccia, è come una texture bidimensionale la faccia, cioè, nel senso... Cioè, c'è avuto un periodo un paio d'anni fa, fino a un paio d'anni fa, che era. Cioè, mo l'hanno un po' riconciato. Io avrei detto più che un po' un Picasso, ecco, però sempre con rispetto parlando. Picasso. Beh, no, Picasso è una bella d'arte, ragazzi. Picasso è più coso, è Cleghin. Insomma... Cleghin, sì, voglia. Vabbè. Pure la montagna, quello. Periodo blu di Picasso. Il periodo blu di Picasso. Anche blu verde. Il blu verdogno. Sì. Comunque a me viene in mente questo aneddoto, ragazzi. Quando tanti anni fa c'era un amico che frequentavo, che noi eravamo già grandicelli, insomma 18-20 anni, forse qualcosina, sì, più o meno quell'età lì, e io avevo una sorellina tipo di 3-4 anni, e io ho questo ricordo che noi praticamente giocavamo con la sua sorellina quasi come fosse un pallone, cioè nel senso che ce la tiravamo praticamente, ce la lanciavamo, tempo poi dopo, ma quello che nella mia testa sarà stato 3-4 anni dopo, insomma, tua sorella come sta? Ah, bene, incinta. Gelo, come? Ma tua sorella, mi mando il gesto di una bambina bassa, no? Ma tua sorella no, c'aveva 20 anni nel frattempo. Vabbè, che vedete. No, ma infatti io c'era la sorella da un mio carissimo amico. Cosa che comporta il fatto che io ce n'ho 40, però vabbè. Che io ho visto crescere e poi dopo l'ho vista, capito, c'ha tre figlie e dico cioè, sì, insomma, dici ma com'è, è una bambina. Le bambine non fanno figli. Esatto. E invece in realtà giustamente e poi a lei è successo più o meno la stessa cosa. A un certo punto ha detto: ma sapete che c'è? Nel sto telefilm scopano tutti, ma perché io no? Ma non solo, cioè lei giustamente ha fatto un ragionamento che secondo me, come quella sera, quella notte, dove erano alla vigilia della morte, perché stavano allo stagliere non far sapere. Esatto, e allora diceva: dato che tanto domani morimo tutti, perché insomma devono combattere contro i morti, tra morti. Cioè, morti, sai che c'è? Non vogliamo morire vergine. Siamo ottimisti, però c'è una buona possibilità che guardi, che morimo. No, cioè. No. Poi morì vergine. Però c'è ancora. Ma forse lui si riferiva all'episodio di Game of Thrones, ora che ci penso. Può essere, sì. Aveva appena visto l'episodio che era l'episodio 3, infatti, sì. No, episodio 2, l'episodio 2. Al che si sarà anche domandato, ma perché lo fanno su Sky e non su Canale 5? Perché secondo me a un certo punto il dubbio è vero. Perché non abbiamo comprato Sky? ma che poi questo, ma tu che ne sai? Che cioè... poi è successo l'esatto contrario, Sky che si è preso un po' dei pezzi da Mediaset, no, Premium infatti, in particolare. Ma lui ancora non capisce questa cosa, perché non è più il presidente. Ma lui non... Ma lui di che... Allora, scusate, ma di che cazzo è presidente lui? Di Forza Italia. Ah, ok, quindi posso... E del Monza, del Monza. Ah, del Monza. Lui ha comprato, ragazzi, lui e Galliani hanno comprato il Monza. Così. Sì, lui e Galliani. Sì, con l'idea che vogliono rifare il Milan. Monzan, lo chiameranno Monzan. Okay. Monzan, Monzan, sempre con te. Bello, chiediamo dal nostro insider PLG. Guarda che se lo chiamano Monzan io comincio a tifare il Monzan, ragazzi, cioè subito. No, l'hanno preso il Monzan, però... Sì, ma dico, se lo chiamano Monzan... Scusate, a un certo punto è arrivato Leo Arjon che dice Niki Lauda è morto. Sì, se voi ti facciamo la battuta, Leo... Si è spento. Niki Lauda si è spento, no, un'altra volta, sì. Ma un'altra volta ancora, quasi sulle nostre parti, insomma. Evviva Niki Lauda! Vabbè. Vabbè, niente, comunque pure lui è stato vittima del trono e spade. Trono e spade, sì, bello. Ma chi, Berlusconi? Berlusconi, sì. Vista la seconda puntata, chissà quando si vedrà la puntata 6. Tra l'altro, ragazzi, oggi ho visto il trailer, il teaser, perché uscirà l'anno prossimo, della terza stagione, che poi in realtà, secondo me, è la seconda parte della seconda stagione di Westworld. Ah, perché ma quante puntate hanno fatto Westworld la prima? La seconda stagione non lo so perché non l'ho visto. Ho visto soltanto... Ho visto la seconda, ma devo finire di vedere. Non l'ho finita neanch'io, ma... avevamo iniziato a vederla... Diciamo che dal teaser sembra che è tutto ambientato in superficie, poi si vedrà, insomma. Ma sapete che attore entra in campo? No. So che me lo stai per dire. Se vi dicessi Jesse Pinkman... Ah, cosa? Ah, ok. Cosa? Aaron Paul. Che io in Breaking Bad l'avrei solo voluto che vede morto. Il polpo volo. Vabbè, esatto. ci sta, dai. Proprio fastidioso quell'essere. È un po' fastidioso come vabbè, ma era il personaggio. Sì, ma io infatti mi auguro che l'attore non sia il personaggio. Ecco. No, assolutamente no. Anzi, è uno che riesce anche a fare parti comiche. Insomma, è uno abbastanza... È come si dice, il nano del trono delle spade, io mi auguro che non sia un nano. Cioè, no, quello è un po' diverso. Okay. È come, no, il controllo... Sai invece cosa è successo? Gimli, il nano del Signore degli Anelli, che in realtà è alto 2 metri. Come i Padussi. Eh sì, no, davvero, l'attore che interpreta Gimli è altissimo, infatti è tutto post-prodotto per... Tanto già che dovevano... vabbè, Frodo non è che l'hanno fatto più di tanto. C'è Valgion che sta a scrivere cose a caso nella chat. Mozambico. Non so se Mozambico è la citazione. Mozambico. Invece era finito, era in punta di fioretto, Mozambico. Ma invece parliamo un attimo così velocemente Invece andiamo a casa. Ma parliamoci velocemente di John Scusa, Wick. Scusa Pizzi, ma te sei già a casa? Giusto, è vero. John Wick, per film di cui abbiamo visto io e Pizzi. Ti ricordi quello che gli aveva ammazzato Arcanes in cazzo? Ma ragazzi, allora io mi ricordo che sa che io lo riammazza. No? Allora io mi ricordo che l'ho visto. Allora sei un coglione se lo riammazza, cioè. Io mi ricordo che l'ho visto, ma non me lo ricordo. Ma dai, sì, che lui si incazza. No, mi ricordo. Lui è un assassino, cioè, di una lega di assassini. A un certo punto decidono che è ora di farlo. L'assassino di tutta la lega. Sì, esatto. No, ma in realtà lui stava per i cazzi sua, tranquillo, beato, nessuno gli rompe il cazzo. Era il figlio del boss che lo derubi, ruba la macchina e gli ammazza il cane. Così, proprio, cioè, della compagna per il quale lui aveva lasciato praticamente il lavoro, che gli aveva regalato prima di morire, e quindi sta cosa lo scapoccia, tipo peggio di Daenerys. Lì c'è un senso, però, che scapoccia e fa una strage. Poi continua per altri 2 film. E nel secondo, il quarto con tanto di altri usciti. Allora, intanto nel secondo il cattivo è Scamarcio, quindi evitate quel film già per quel motivo lì. Vada, poi lui muore Scamarcio? Mi pare di sì. E allora lo vediamo. Il terzo è uscito in questi giorni, perché sono quei film che soprattutto al pubblico asiatico piacciono tantissimo. Ormai comandano loro. Incassano il budget con cui girano. Io invece ho una domanda a voi che siete attenti. Voi siete attenti osservatori del mondo che ci circonda. Io ho visto un trailer con tutti gli attori di Matrix. Tra Matrix. Che però non è Matrix, eppure ricordo. No, guarda, che probabilmente è John Wick 3, perché c'è anche Christopher Christopher. C'è. Come si chiama? Lawrence. Lawrence d'Arabia. Il nome non mi viene. Antonio. Ma Mario Lawrence. Lawrence Fishburne. No, aspetta, no, era cosa? Era Megumi. Megumi Fishburne. Legumi. Quindi le donavo sempre là. No, sì. credo sia credo che tu abbia visto John Wick 3. Comunque, che ci siano dei movimenti per un Matrix 4, attenzione che è vero, che c'è questa intenzione di creare un universo espanso di Matrix. Quindi, grazie di Matrix. Io lo so, ma come è finito Matrix? Cioè, tu lo sai, ma l'ha rimosso. Come tutte le persone sane di mente. No, io il 3 non l'ho visto. Che praticamente la allora, il 2 e il 3. Io ho visto il 2 e l'ho visto. E il 3 continua come il 2, cioè, sti droni che sparano. Solo peggio. Solo peggio. E a un certo punto c'è l'architetto, che sicuramente la sottotrama dell'architetto è stata scritta da Abrams e soci, perché a un certo punto si perdono per strada, si capisce un cazzo. Allora, io c'ho un racconto, ragazzi. Alza le mani, architetto, e dice... fare un po' come cazzo le barche seminano. Solo tutte le persone che veramente mi conoscono e che hanno collaborato con me a un progetto di 13-14 anni fa sanno che sta cosa dell'architetto l'aveva scritta un amico mio su un suo romanzo che è stato plagio. No, non plagio no, però era un'intuizione in qualche maniera, cioè nel senso c'era sto racconto che non era troppo non c'entra un cazzo a Matrix. Però è assurdo perché comunque pure questo era comunque ambientato in un futuro distopico un po' particolare, insomma. Ed era veramente interessante. Una volta mi sa che se lo riesco a invitare parleremo di questa storia, il famoso tubo N403 di cui abbiamo parlato. A proposito di distopiche, noi dobbiamo sempre finire Alter del Carbone. Finalmente abbiamo riniziato. Abbiamo riniziato tra l'altro con gusto, perché allora abbiamo finito... Io l'ho già visto con gusto, però Pizzi si addormentava in quel periodo. Sì, quindi no, adesso no, no, conscio... Allora, io avevo capito che mi piaceva, ma in quel periodo non... Era subconscia la cosa. Esatto, non ce la facevo. E quindi mi perdevo dei pezzi. E tra l'altro vedemmo solo la prima puntata, solo che... abbiamo ripreso a fare le cose un po' più sul serio, quindi abbiamo finito Penny Dreadful. Tra l'altro, il finale è un po' così cos'ha, però vabbè, bello. Il finale, diciamo, un finale degno di una serie che secondo me non era forse un po' troppo buttato veloce così. Diciamo che secondo me era un finale di una serie che secondo me non aveva capito ancora bene. E infatti, se... è un po' la scena dell'attentato quella. Sì, esatto, un po' dice vabbè, buttiamola tanto così, buttiamola, esatto. poi dopo recuperiamo in qualche modo. E mi devo dire che mi è piaciuto, anzi la terza stagione, allora secondo me la seconda è forse la più inquietante per certi versi, cioè nel senso è quella delle streghe, no? Quindi sì. Esatto, quella delle streghe, è forse la più, quella che c'è più il pizzico di horror in più. Questa, diciamo che il cattivo è meno carismatico, cioè Dracula. È un peccato che dopo si sia tutto banalizzato su una trama già vista come quella di Dracula, quindi si sono proprio ripresi i personaggi classici, quando invece... loro avevano creato tutto un, come dire, un underworld con tutte le, cioè, i licantropi, i vampiri, diciamo, sì, però diciamo che poi come si chiudono le trame, tutte pensi, insomma, non pensi, forse le storie continueranno, magari altrove, no, pensare. Allora, in realtà è pronto, è in lavorazione lo spin-off che sarà ambientato a New Orleans. Però non credo che c'entrino niente loro, cioè... personaggi diversi, però insomma... Però in effetti sono tutte tante trame, la creatura di Frankenstein, capito? La tizia, altra immortale che aveva creato sempre Frankenstein. Ma poi comunque la storia del morto lì... Dorian Gray pure, che fine ha fatto. Dorian Gray, sì, cioè nel senso... Ma anche Dracula, in realtà, personaggi della letteratura classica, sì, certo. Però non dà una conclusione. Secondo me loro non erano proprio sicuri, cioè nel senso non hanno proprio fatto la chiusura definitiva delle cose. Perché si sa mai. Poi tra l'altro il finale, cioè proprio il finale finale, proprio le sequenze finali sono anche poetico, perché comunque... No, ma ripeto, a me è piaciuto molto, ho trovato apprezzabile il fatto che non lo hanno tirato per le lunghe all'infinito. Bravo, sì. Forse non c'erano, cioè forse non c'hanno manco... creduto, non c'hanno creduto, forse non tanto loro. Diciamo che non andava, esatto, non andava neanche tantissimo come serie, quindi non ci hanno voluto rischiare sopra più di tanto. Però questo è stato un bene, perché secondo me è stata una serie più che dignitosa. Secondo me costicchiava pure. Credo che abbiano speso poco a livello ambientazione, di ricostruzione, di fotografia. Scenografia, cioè che costume, insomma. Sì. Tutto scenografia, costume, quindi insomma, beh, la roba tosta questa. E devo dire che è stata inquietante. Poi scusate, anche con attori anche di una paurosa, certa importanza, perché non erano proprio gli ultimi stronzi. No, infatti, guarda, devo dire... Eva Green, Timothy Dalton, gli altri c'è Josh Arnett. È anche divertente questa cosa di buttare lì personaggi che, cioè, nel senso che fanno parte della letteratura, cioè l'ha buttati tutti dentro, capito? Cioè Dorian Gray, che poi tra l'altro è un po' anche tipo... Anche Mr. Hyde, che però in realtà è solo accennato. Sì, te. Esatto, infatti anche questo, secondo me... Una previsione della quarta stagione comunque c'era, secondo me, in qualche maniera. Hanno utilizzato tutti i mostri di quella che è la letteratura classica dell'horror, tant'è che il titolo, non so se sapete da cosa deriva. Dai, Penny Dreadful, i racconti che costavano un penny. Esatto, che erano racconti horror, diciamo, dell'era vittoriana. E poi ricordate, comunque... se ricordate, era successa una cosa del genere anche su... la leggenda degli uomini straordinari, no? Quel film. Ma infatti lui ha preso... che pure lì c'era tutto. Quelli sono tratti dalle graphic novel di Alan Moore, che hanno preso la letteratura classica, appunto. Più o meno hanno delle similitudini. No, hanno preso proprio come punto di riferimento quelle graphic novel. Quindi comunque c'è molto. Diciamo che la versione bella di quelle che è una graphic novel, insomma, sì, peraltro il film è veramente bruttissimo. Giustamente diceva che John Wick è la versione moderna della favola del Cavaliere Nero, giustamente. Sì, assolutamente sì, sì, sì. Vabbè ragazzi, ma John Wick è l'ultimo, dei Liam Neeson, nel senso prima di lui ce ne sono stati tanti dei Cavalieri Neri, no? Sì, sì. Anzi te dirò che e dice anche che Penny Dreadful doveva continuare, poi è stata comunque, hanno deciso di chiuderla e sì, se non l'hanno, altro, l'hanno chiusa in corso, se, esatto, se non altro non l'hanno interrotta, cioè nel senso l'hanno comunque, gli hanno dato un finale, gli hanno dato comunque una chiusura, perché che, questa è una cosa che non è successo praticamente a Caprica, perché insomma no gli hanno dato pure a Caprica, sì, però vabbè, cioè, però lì a Caprica, la Caprica lo devono buttare, allora, nell'acido, il problema è che Caprica doveva essere, eppure era una bella idea, Caprica dovevano essere più stagioni, allora, quindi hanno condensato tipo 3-4 stagioni in 6 puntate, che era una cosa da pazzi. Caprica, infatti, sarebbe stata una bella idea se non gli avessero poi dato quel tono da soppopera. Il problema è che all'idea diciamo non è seguito un'esecuzione ragionevole, quindi è inutile che mi dai una trama diciamo così strutturata, un background di fantascienza, sì, però, sì, del troppo, genere troppo e poi sì, la butti, sì, alla Beautiful, pareva vedere, cioè, una puntata di Beverly Hills, tu mi stai a raccontare la nascita dei Siloni, poi alla fine ci hai messo troppa roba intorno, sì sì, quello sono d'accordo con te assolutamente, insomma. Anche quella finisce con la scena dell'attentato, comunque. Sì, si ricollega, ma proprio la scena dell'attentato, cioè, non l'hanno neanche dovuta rigirare, no. Hanno preso, comunque, finito Penny Dreadful, abbiamo ripreso in mano le prime due puntate, appunto, e quindi adesso ricontinueremo, l'abbiamo ripreso in mano e ci siamo visti YouPorn, Altered Carbon, che tra l'altro finita a suo tempo, secondo me. No, l'ho finita a suo tempo. No, vabbè, però siccome che mo adesso si vocifera che dovrebbe arrivare sta seconda stagione. No, è ufficiale, c'è anche la data d'uscita. Allora, credo. Noi abbiamo quest'anno comunque. Abbiamo insomma ricominciato a rivederla, quindi ricominciando dall'inizio, perché era passato talmente tanto tempo che io sicuramente non mi ricordavo. È bello questa ambientazione oltre Blade Runneriana, che comunque è figa, insomma, molto cyberpunk, e questa cosa delle quanto è buona la poliziotta, ragazzi. E poi sta donna nana tutta tana. A me non piace. È bella, però non mi ingrifa. E poi forse perché è troppo fastidioso. L'hai vista solo vestita finora, due puntate, quindi sì. Aspetta. Vabbè, sia buona di fisico, sì. Però come perché è talmente fastidioso il personaggio, capito? No, vabbè, poi in realtà un po' migliora. Perché il problema di quella serie è che tutti i personaggi fatichi a inquadrarli bene, perché poi sono tutti molto ambigui. Col fatto che i corpi non sono altro che custodie, no? Esatto, quindi c'è sta cosa della coscienza, replica di coscienza, di cui vi rimando alla puntata di videoludica che abbiamo fatto su Soma, perché cioè non parliamo di questo, ma parliamo, ecco, di, lì per esempio, a parte i miliardari che si scaricano la memoria da un'altra parte, quindi che potrebbe, se fanno il backup nel cloud, ragazzi. Per quanto riguarda invece le persone normali, che se beccano il corpo che capita, lì è proprio un trasferimento effettivo di coscienza, quindi si staccano la coscienza, l'hard disk da una parte, perché impiantano un disco di memoria nella colonna vertebrale delle persone, la pila, esatto. Usciti fuori dalla prigione, alla bambina gli hanno del corpo da vecchia, insomma, tossica, tra l'altro, cioè, poi succede, questo è quello che è. Però in effetti lì è bello, sì, bella serie. Invece aspettiamo l'intelligenza artificiale figa, pure Poe. Tra l'altro non possiamo più parlare di Discovery, ma possiamo dare le ultime notizie importanti. È stato praticamente ufficializzato che si chiamerà Star Trek Picard. Io sto rosicando che lo fanno su Amazon, proprio sta cosa non me... A me non mi cambia niente, quindi va bene, cioè, poi insomma, come dicevo, c'ho altri Prime, sistemi, insomma. C'ho Prime, ma sto aspettando che finisce l'anno. No, che, a parte il fatto che sì, probabilmente lo rinnoverò, ma non è che ne faccio tutto quest'uso, però sto aspettando che estendano la compatibilità alla Chromecast, che finalmente si sono messi d'accordo, abbiamo detto più di un mese fa, però di fatto adesso oggi con l'app ancora, certo, non... Ok, vabbè, vedrai che per quando... Allora, non è ufficiale che si chiamerà Star Trek Picard, ma è stato presentato agli azionisti durante la presentazione del palinsesto come Star Trek Picard. Hanno fatto vedere già un primo segmento di una frazione della scena che dovrebbe essere nel pilota, ossia dove Picard entra in quello che dovrebbe essere il quartier generale della flotta stellare, e il tizio gli dice chiede indicazioni, il tizio in divisa gli dice lei a chi si fiu, esatto, lei chi è, e lui fa faccia tipo come che chi sono io, che tra l'altro lui molto invecchiato, cioè, beh ragazzi, Ovetto è tanto vecchio, penso che sarà veramente una monostagione, ma proprio di perché c'è rischio, dice no ma in generale, perché penso, da quello che ho capito, è che veramente sarà veramente una serie antologica monostagione, molto lenta, quindi però pensa che figata se quando lui nella scena arriva dice ma lei chi è? Lui risponde sono Locutus di Borg. Tu cazzo! So, la resistenza è inutile. E comunque niente, quindi sarà lenta, è una serie molto psicologica. Uscirà entro la fine del 2019, quindi che significa che Discovery secondo me splitta al 2020. Skippa. Allora che Discovery l'avrebbero splittato a, probabilmente non a uno ma a due anni, l'avevano già detto, a prescindere. Beh, no, ma non è che, cioè, in teoria non, allora, in teoria dovrebbe uscire a settembre del 2019, no? Come il problema è che io sono aspettando, un po', diciamo, perplesso di questa cosa, nel senso che non credo che abbiano, ammesso e non concesso, che hanno iniziato a girare, l'hanno fatto da poco. Cosa? Picard è già in corso. Vabbè, ma da poche settimane, no? Diciamo che i tempi per far uscire a settembre mi fanno temere una serie, non dico cioè, per presentarla agli investitori su come palinsesto, a parte sono un sacco di foto de set già in giro, quindi hanno secondo me già bello che è iniziato. Sono tutti esterni, stanno a fare adesso, c'è una post-produzione. Poi. Esatto, comunque, e poi comunque secondo me non sarà divisa in due, quindi ci sarà probabilmente 6 puntate o 5 puntate, quelle che saranno magari prima dei primi di Natale. Poi sì, perché poi c'è la pausa di garanzia a Natale, quindi, quando interrompo. Anche perché essendo un prodotto che Star Trek Picard, esattamente come Discovery, è un prodotto che negli Stati Uniti andrà CBS All Access, quindi se siete utenti Prime in America non ve lo vedete, dovete avere CBS All Access, che ha però esteso l'accordo per la distribuzione internazionale questa volta con Amazon, che evidentemente ha proposto più soldi di Netflix. Ma secondo me non ci hanno creso. Ma secondo me pure per non stare nelle gene scrive, cioè, vabbè, mica, secondo me non devono ragionare in torti, sono aziende che danno il malloppo a chi paga di più, però però pure per non fate troppi nemici anche, perché se no io la prossima volta te compro più e sei brutto stronzo e te lo stesso servire, e mo che mi dici c'è Disney Plus. Beh, in realtà ti vorrei dire che proprio per una forma di riconoscenza verso Netflix, allora avrebbero dovuto ragionare al contrario di quello che dici, perché Netflix gli ha salvato il culo, ma sicuramente Netflix c'ha, avendo... ci hanno creduto proprio Netflix, probabilmente non lo so. Pensate se finisce come quando Mac Buongiorno dopo tanti anni a Mediaset ha firmato per Sky e dopo è morto. Questo è quello. Che poi lui se l'ha fatto pure da più del ventennio a Rai. Di più, lui è iniziato in Rai, però è vero quando si dice che la televisione privata praticamente l'ha inventata lui in Italia, perché lui ha esportato il prodotto americano in Italia assieme a Berlusconi, quindi tu, vabbè, però stiamo divagando. Vabbè, insomma. Comunque sì, il discorso è che... Cioè, essendo lo stesso, come posso dire, mandatario a livello produttivo, essendo lo stesso più o meno team di lavorazione, sia Kurtzman e compagnia bella, mi fa strano il fatto che un prodotto riesci a piazzare da una parte piuttosto che dall'altra. Poi è chiaro che sicuramente le dinamiche del mercato è un po' come dite voi, cioè nel senso che uno magari gli ha offerto di più, quelli ci hanno creduto di meno. Però secondo me sa un po' tipo, vabbè, un po' a te, così non litigate. Comunque ragazzi, per dire, ora vi butto lì questo argomento collaterale, io negli ultimi mesi sto ragionando che forse potrei prendere qualche mese di pausa da Netflix. Non lo faccio perché dividendo l'account in 4 con altri amici mi costa veramente 3 euro al mese, quindi sti cavoli. Però se dovessi pagarmi da solo l'abbonamento a Netflix, probabilmente farei una pausa, perché di prodotti che vale veramente la pena vedere Netflix ne sta facendo troppo pochi rispetto alla quantità di roba che fa. Non lo so, sta perdendo tutte le terze parti una dopo l'altra, perché Disney ormai ha levato tutto. E questi di qua, quelli di là. Ma questo varrà con tutti gli altri competitor. Lo so, Disney, ma quando devi combattere in questo tipo di mercato, l'unica alternativa è fare prodotti di qualità, perché la gente decida di stare sulla tua piattaforma. Perché tecnologicamente è la migliore in assoluto e non ci piove. Però se dopo non c'è niente di bello da vedere, che resto fa? Ma guarda, io ho un sacco di roba ancora in lista, veramente. Ma ce l'ho anch'io. Però poi sotto sai quante serie ho iniziato? Kingdom, cioè nel senso, già solo quello. Io ho iniziato tante serie e dopo uno o due episodi ho detto che non è, soprattutto original, non ne vale la pena. Ma io me li guardo tutte, cioè nel senso, se inizio anche a volte su alcune che veramente fatico, ma comunque le porto fino alla fine perché devo comunque capire, insomma. Però se è roba original, di OA ne avete sentito parlare? Perché la seconda stagione c'è, ma non l'ho vista. Ho sentito soltanto gente che la definiva monnezza o cazzata. No, io invece ne ho sentito parlare decisamente. Guarda, un po' meglio rispetto alla prima stagione. Io sono riuscito a vedere tutta la prima stagione sia di OA che di Ozark è quella con Jason Bateman, entrambe sono original Netflix. ho visto a fatica tutta la prima stagione per principio, poi quando sono uscite le seconde stagioni proprio non mi passa neanche per l'anticamera del cervello, non me ne può fregare di meno. Manco buo cazzo, così. Invece sono, spero che si chiuda in maniera discreta Stranger Things, perché credo che la terza stagione sarà l'ultima. O basta. Cioè. Basta, anche perché posso rievocarli anni 80, c'è anche un po' rotto i coglioni. Potevano fare, diciamo così... Potevano trovare il modo per fare che l'ultima era la prima, per esempio. Ragazzo, anche insomma. Sarebbe stata e tutto sommato una perfetta quadratura. Esatto, tutto sommato ci stava anche. Insomma, boh, adesso che cazzo mi devi andare contro raccontare? Cioè, poi alla fine diventa pure. Invece sono stati tra l'altro, a proposito di Stranger Things, hanno fatto vedere un video rubato della beta del gioco che Telltale Games stava facendo per Netflix. Mamma mia, no, no, vabbè, è ingiudicabile chiaramente. Certo, perché, cioè, nel senso, non c'è niente quasi da interattivo. Però insomma, d'altra parte, quando riesci a chiudere anche se c'è le commesse, vuol dire che stai messo veramente male. Vabbè, però insomma, no, dicevo invece, invece che parlano due i giochi, eh. Beh, uno era già uscito, era un giochino per Android e per, cioè per smartphone. Uno doveva essere una cosa per cellulari, sì. No, no, quello è uscito, quello esiste in grafica 8-bit, come dire, molto commemorativo. No, no, no, però è ufficiale. C'erano altri due, quindi quello là. Non lo sapevo. Sempre commissionati da Telltale, solo che Telltale aveva dato praticamente il secondo gioco in mandato a una ulteriore compagnia, ed era un gioco in soggettiva, sempre per smartphone, quindi diciamo tipo un survival praticamente alla Alien Isolation, tanto per capirci. Che però questi hanno cominciato a lavorarci, poi vedeva che non arrivano i soldi, hanno detto mi sa che noi smettiamo qua di lavorarci, insomma. Poi, guarda, per smartphone, quindi sia per Android che per iOS, esiste questo titolo che si chiama Stranger Things The Game, ufficiale assolutamente, di tale Bonus XP, che è il nome della software house, che tra l'altro è uscito in concomitanza con l'uscita della prima stagione, quindi non è da poco, che per esempio su Play Store, su Google, ha avuto più di 5 milioni di download, quindi insomma un discreto successo. Sì. È un platform, un'avventura stile 8-bit. Che Stranger Things alla gente è piaciuto, proprio questo effetto nostalgia. Cioè... Non è dispiaciuto neanche a me, perché hanno ricostruito discretamente gli anni 80, però poi la storia, anche lì tirata per le lunghe, perde significato, secondo me. Ma infatti. Invece sono fermata alla terza puntata, guarda. No, guarda, cerca di andare un po' oltre, perché... Diciamo, no, la prima stagione alla fine è figa, sì, cioè, sì, nel senso, poi dopo però a me è proprio il... Gioca tantissimo, cioè, sull'atmosfera dei Goonies, capito? Goonies e tutta sta roba qui tutta messa insieme, capito? Cioè... Però se quando esce la seconda parte di It, che tocca prendere i biglietti. Assolutamente, ragazzi. Sì, anzi questa volta ce l'andiamo a vedere sull'IMAX, che c'è finalmente anche a Roma. L'ho rosicato, l'ho saputo il giorno dopo che ho visto Endgame. Vabbè, ma sarebbe costato 15 euro. Non so, ho capito, però vabbè, diciamo, però, se li devo spendere ci vuole un film adatto, certo, insomma. Chiaro, cioè, non è che ci vado a vedere... Boldi e De Sica. Boldi e De Sica. Non credo neanche che ci proviamo. Yes, avete visto la locandina del film di Boldi e De Sica con la faccia di Boldi completamente, esatto, ai così, minimi storici, completamente photoshoppata male, mamma mia, terribili, cioè. No, non vedo perché. No, infatti, perché se guardi. Invece sempre su Netflix hanno annunciato la nuova stagione di Black Mirror, 3 episodi. Sì, diciamo che ritorna alle origini. Sì, sì, ma è meglio anche ritorna perché... alle origini, perché secondo me è tornata anche a casa, ma non so, non ho indagato, però secondo me è tornata anche un po' a casa, tipo a... Fatta a casa. A BBC, insomma, cioè nel senso che, sai, ci avevano messo a mani gli americani, erano diventato tutto molto più costoso, ma allo stesso tempo secondo me ha un po' perso... Lo spirito, quello di ai confini della realtà. Esatto, bravo, esatto, proprio così. E quindi alla fine, comunque, in qualche maniera vediamo, insomma, di che cosa succede. Tra l'altro Orange is the New Black, ultima stagione a luglio, quindi finalmente anche pure quello si chiude. Oh, questa doveva stare 3 mesi in galera e sono 6 anni che rompono i coglioni. Io ogni volta... la terza stagione non ho più letto. No, vabbè, però dopo succede l'infinite volte. So che c'è stato un riot, varie cose, però non l'ho seguito. Cioè, devo dire che... Allora, a me mi aveva un po' rotto il cazzo, perché la prima stagione poi alla fine in particolare l'ho sofferta tanto, perché era sta storia di ste due... Cioè alla fine pare che dentro a sti cazzo di carcere è solo lesbiche. In quel carcere in particolare passano il tempo a fare case le fregne. Scusate, certo, ma insomma alla fine era un po' questo. Invece poi dopo alla fine comunque la storia comincia a prendere... Diciamo, quando empatizzi un po' anche con i personaggi, incomincia a diventare anche pesante. Rimane sempre su quella commedia amara, però poi assume veramente un aspetto pure drammatico, perché succedono delle cose veramente terribili, insomma. Quindi alla fine dei medesimi un po' di più, cioè, uno capito che così stava a perdere mordente, capito? Solo la storia di queste che... Poi la, in particolare la protagonista, quella bionda, che veramente, cioè, è la prima che vorresti vedere morta, un po' come la moglie di Dexter. Vabbè, perché è l'antipatica per definizione, sì, un po' la snobbetta un po' così. Vabbè, comunque, mo a luglio finalmente chiudono, perché anche quello, insomma, dopo 3-4 stagioni. Basta. Considerando che credo che stia alla sesta o alla settima per chiudere, neanche di... No, mi pare che 4-5, non mi ricordo, sì, comunque, non so, la 7 non ci sono arrivati sicuro, però sì, comunque... Sono abbastanza stagioni, sì, certo. Se per alcune serie di successo che chiudono ne aprono altre che fanno schifo, il problema si comincia a porre, perché il ricambio non mi pare all'altezza dei... I primi prodotti di Netflix facevano tanto parlare, erano di meno, però chi più chi meno erano bei prodotti, avevano il coraggio di fare quello che altri non facevano in termini di sceneggiatura, di rappresentazione, di argomenti. Adesso adesso tutto ogni 80 horror anni 80, non c'è altro. Questa è un po' la tendenza in generale, però. Anche fantascienza di serie C. Invece, ragazzi, a proposito di horror, un film che penso che andrò probabilmente a vedere al cinema è The Lighthouse, Il Faro. Ah, pensavo fosse Chucky, la bambola assassina. No, è un film la bambola del Bourne. È un film dello stesso regista di The Witch, che ha la particolarità di essere un horror appunto ambientato, credo, a inizio 1900 su un faro, su un'isola. Credo britannica, non originalissima, diciamo. No, però ha la particolarità che è stato girato tutto con una fotografia in bianco e nero in 4/3. Proprio pellicola, proprio, cioè, quasi come fosse. Sì, quindi secondo me vuole avere atmosfere particolarmente austere, ma anche particolarmente angoscianti. Diciamo che vedremo. 4/3 in bianco e nero sono gli anni 50. È anche prima, nel senso, il cinema nasce in 4/3, anche il cinema, sì, muto. Appunto, però dagli anni 50 in poi che inizia l'anamorfico, capito? Il CinemaScope, appunto, esatto. appunto quindi, insomma, quindi fino agli anni 50, diciamo che stavano. Il film dovrebbe essere ambientato, non mi vorrei sbagliare, negli anni 20. Figo, può essere interessante. Potrebbe, okay. Cioè non sarà il capolavoro del secolo, però ho visto una foto di scena con William Defoe in IMAX. E con questo assolutamente in IMAX. Beh, se ci arriva in IMAX, perché non è detto che. E con. Lo allargano. William Defoe è il protagonista, insieme a. Come si chiama il protagonista maschile di Twilight? Robert Pattinson, ecco. Pattinson. A questo punto, a proposito di Robert Pattinson, Sì, il nuovo Batman. Morti di bestemmie. Sì, me l'ha detto un tizio ieri. Cioè, se togliamo dal cazzo Ben Affleck e ci appioppano Robert Pattinson. Regà, ma quello quando si leva la maschera sbellucce. Come disse qualcuno, Batman. Batman. Sapete che vi dico? Io direi che alla certa è bello parlare di Batman, è bello parlare di tutto quello che ci pare, però insomma questa è una trasmissione che è bella quando dura poco. E allora è il momento di buonanottare gli amici in chat: Leo Vargion, Enrico, Lobby Frontali, Peppe Rizzard, PRG, è andato a dormire molto prima. Ah, però se non abbiamo notizie del buon Davide Gatti, quindi incrociamo le dita. Lobby Frontali e tutti quelli pavidi che ci ascoltano, l'Alabai che sta già russando sulla poltrona, più tutti quelli, quei 7-8 milioni di ascoltatori che si vergognano di ammetterlo e quindi non vengono in chat. E fanno anche bene, perché... Un saluto da Mario Rossi, Carlo Bianchi e Antonio Marrone. Esatto, Luigi. Ma sei cagato addosso! Oppure la battuta bellissima, in battuta di Tormund. Ah, chi è che si è cagato addosso dei miei pantaloni? Va bene. E detto questo, vi ricordo che domani sera, appunto, c'è questo specialone, Il Trono in Carrozza, sul finale, insomma, Il Trono in Spade. C'è Mourinho? Se non lo avete visto, il finale del Trono in Spade, non ascoltate la puntata, altrimenti state con noi, che noi... Video registrate la nostra puntata, la video vedete dopo. E poi ve la vedete, perché poi è uno speciale Morti di Bestemmie, quindi è proprio Morti di Bestemmie che ritorna quasi ufficiosamente, insomma, quindi è una cosa importante. Lo ammazziamo delle bestemmie? Beh, ognuno dice la sua. Cioè, è ai minimi storici. Ecco, punto, esatto, quella è una cosa importante. È ai minimi storici. Basta, staccatevi questo. Quindi, da me Simone Vizzi, un saluto. Ci vediamo la prossima settimana, mi raccomando, state sempre su www.runtimeradio.it, cercate anche di fare qualche donazione tramite Jordi, il sito, Jordi, bravo, che è importante. Ah, sì, perché diciamo, non è che perché non ve li stiamo a battere che non ci servono, esatto, più, soprattutto per quando non ve li chiedemo che ci servono. Bravo. Fatevi due domande. Saluto e manna a fanculo Marco Gualdi. Ciao, fanculo pure a voi, ciao. Saluto e manna a fanculo Walter Sbano. Vaffanculo! E basta, c'è gente che dorme. Che poi dopo se te mandano a fanculo loro. Capito, vabbè. Buonanotte, ci sentiamo alla prossima puntata che è sicuramente mercoledì prossimo, dove finalmente proveremo a fare questo speciale su Indiana Jones che avevamo tanto ben promesso. Ciao! Ciao! Mi piace, come dico sempre.